Penso che mi ero anche imposto di fare, nel senso che voi tutti più o meno sapete, no, come è stato il percorso dalle primarie ad oggi. Un gruppetto sparuto, che purtroppo vedo rimanere sparuto, ha voluto testardamente tenere aperta la posizione che si era aperta nella situazione delle primarie, una posizione che è anche una posizione politica, perché noi stasera dobbiamo scegliere tra di noi un nostro rappresentante interno alla coalizione di centrosinistra. Noi abbiamo qui, malgrado si sia veramente troppo in pochi, la possibilità di fare qualcosa. Allora, che questa possibilità qua non venga recepita mi fa enormemente innervosire come cosa, perché io credo che innanzitutto ce ne sia la necessità, perché la campagna del centrosinistra, da un punto di vista della comunicazione, ma anche dal punto di vista del pubblico dibattito, non è semplicemente ancora partita, per come la posso dire. Io non credo che... già io la posso vedere assieme a qualcuno di voi internamente, perché dentro un gruppo di lavoro qualcuno di noi c'è e si vede che qualcosa accade, ma si vede solo all'interno di quei gruppi lì e non si vede in nessun'altra maniera. Io credo che da quell'altra parte il consenso che anche oggi è stato sparato dalla provincia sul candidato sindaco in effetti esista, ma proprio per questo credo che esista anche la necessità di entrarci in relazione. O per Bacco, se forse veramente questa è l'amministrazione che stiamo per avere, allora io credo che ci siano una serie di cittadini che si chiedano anche come fare che questa amministrazione qui non si muova in una maniera simile a quella che c'è l'anno preceduta, magari il sindaco politico si è perso. E quindi su questa cosa qui credo che si debba fare qualcosa. Evidentemente non lo si può fare richiamando soltanto alla partecipazione anche attiva. Bisognerà farlo per forza, probabilmente, o come Luca spesso propone, in una maniera più, diciamo così, ad eventi, e qualcosa in questo periodo qua abbiamo pensato, potremmo fare un incontro che proponeva Nadia. Come si chiama il giornalista? Tinzan? Giovanni Tizian. Tinzan. Tra l'altro purtroppo per il mese di febbraio non è disponibile, forse pure marzo ci farà sapere se è libero nel mese di marzo. È il caso di uno dei tanti perseguitati, giornalisti perseguitati per mafia. È stata data la scorta, da vicino. Che potrebbe venirci a parlare del problema della mafia al nord. E questo è un argomento, secondo me, che difficilmente verrà fuori nella campagna politica ufficiale, ma che sarebbe assai interessante tirar fuori noi. Ecco, forse sulla base di un richiamo di questo genere si riesce a collettare un pochino più di interesse, ma la vera carta, secondo me, noi che potremmo giocare è quella che è perfetta per la posizione che sostanzialmente Fare Comune ha, di essere a sostegno della candidatura del centro-sinistra, ma anche autonomo. Ci siamo detti più di una volta la lista che non si candida, per far capire che la nostra posizione non è una posizione che ha qualche interesse di rappresentanza di quel modo, ma l'interesse a cercare di cambiare il sistema di rappresentanza più in generale. In questo senso, diciamo che l'unica cosa a cui vorrei che ci candidassimo è quella di diventare il posto dove il programma del centro-sinistra, che a questo punto è quasi pronto nelle sue linee direttrici, possa essere dibattuto pubblicamente. Quindi io vorrei che la prossima volta che ci si ritrova qua, ci si ritrovi in tanti, anche perché si portano qua i coordinatori dei gruppi di lavoro di Lucini. Magari Lucini stesso, se riteniamo tra di noi che è il caso di provare ad invitarlo, e in modo che qui si possa pubblicamente andare a interloquire sul programma. Questa cosa probabilmente sarà fatta anche individualmente dai candidati delle singole liste e da Lucini stesso per i quartieri, ma un luogo unico dove questa cosa possa accadere, che io sappia, non è ancora stato proposto. Ecco, io candiderei Fare Comune a fare questo tipo di operazione qua. Possiamo poi, come proponeva Danilo, che stasera non è potuto venire, un incontro a partire dall'esperienza dell'amministrazione di Napoli con cui lui è in contatto, un incontro sulle modalità partecipative applicate direttamente a caso concreto di amministrazione comunale. Questa è una cosa che è il nostro, diciamo così, leitmotiv, il nostro obiettivo anche generale. Un'altra cosa è tentare di dare continuità in qualche modo alla presenza. In questo senso qua chiederei, magari qualcuno di voi ne sa anche di più, se è considerabile un'opzione possibile quella di continuare Agenda 21, che è stata un'esperienza di partecipazione diretta di associazioni di singoli cittadini, oltre che di enti, una situazione ufficiale in mano al comune, se spingere perché questa diventi continuativa in modo che qualcuno di noi possa anche pensare di avere presenza attiva in questa, o piuttosto che inventarci altre forme che possano dare continuità a un dibattito che però deve nascere comunque questa campagna elettorale. Quindi o siamo capaci, e adesso siamo ancora troppo in pochi per riuscire a farlo, siamo capaci dalla prossima volta di interloquire veramente con la costruzione del programma del centro-sinistra, anche in maniera critica, oppure evidentemente ci dobbiamo, come dire, ritirare alle nostre singole attività e passioni. Ecco, io vorrei sapere anche da voi che tipo di aspettative, perché quando siete venuti qua stasera è inutile che io ve la meni con la partecipazione, siete già gli unici partecipanti. Quindi ditemi voi quali sono le aspettative che avreste da una situazione aperta come questa qui e presente comunque, come ho detto prima, fino alle elezioni di certo, perché il prossimo passo sarà quello di scegliere tra di noi il delegato che ci rappresenterà nella coalizione di centro-sinistra. Questo delegato, che cosa ciascuno di voi si aspetta che vada a sostenere, dato che non abbiamo una lista e non ci candidiamo? Non saprei se qualcuno si è fatto già qualche idea su questa cosa qui. Oppure ritenete giusta la cosa di pretendere un dibattito pubblico con i gruppi di lavoro sulla costruzione del programma di Lucini, o forse questa cosa non è negli interessi di questa assemblea? Non so se qualcuno. Maurizio, tu per esempio che sei nei gruppi, va così, vado così, cominciamo. Tu per esempio che sei nei gruppi, credi che questa cosa qua sia una necessità, o forse in realtà non è questo il luogo giusto? La necessità è che comunque fare comune esiste, perché io presente qui e anche alcuni che non sono presenti, io ultimamente sono stato preso un po' da varie cose, però ho partecipato meno, però credo di aver avvertito più dall'inizio che c'era la volontà che ci fosse un soggetto come questo dove si possa fare della partecipazione e anche raccogliere in modo costruttivo un certo tipo di dissenso che sennò potrebbe essere perso, tra virgolette, no? Partecipando più o meno attivamente ai gruppi, ho avuto la sensazione che comunque ci siano delle rappresentanze, chiamiamo tra virgolette, di partito e meno di realtà tipo quella di stasera. Quindi secondo me il delegato di fare comune può avere sicuramente un senso. Ora bisogna cercare di focalizzarsi e di capire cosa di originale noi portiamo rispetto ai gruppi già delineati e costituiti dei vari partiti, piuttosto che, cioè, delle persone già fin dall'inizio appresso al candidato che ha vinto. Se noi troviamo anche solo due o tre elementi chiari da portare, già c'è la necessità di esprimere il delegato. Io credo che la particolarità che abbiamo è proprio quella di non essere partitici, cioè quindi di essere riferimento sì alla coalizione del centro-sinistra, ma un punto dove i cittadini possano avvicinarsi, diciamo così, al dibattito diretto senza necessariamente sentirsi sotto una bandiera di partito. Siccome questa mi sembra un'esigenza veramente diffusa e sentita, potrebbe anche essere discutibile, ma esiste questa cosa, io credo che noi possiamo rappresentare questa specie di porta, non so, di approdo, diciamo così. Indubbiamente mi rendo conto che bisogna farlo di volta in volta, probabilmente tematizzando molto l'incontro, perché non basta la genericità. E quindi mi chiedevo infatti se la presenza dei coordinatori dei gruppi di lavoro fosse o non fosse un elemento di richiamo di questo genere. Non so, per esempio, tu sei in un gruppo. No, io mi farei tre brevi riflessioni. La prima è questa, che fermare il percorso, fermare vere, Marciano, ha avuto il grandissimo merito di avere svegliato e mosso delle attenzioni di grandissima importanza rispetto all'assopimento della politica, la distanza della politica. Io ho vissuto abbastanza intensamente tutto questo periodo e ho conosciuto una infinità di persone di ogni ordine di età, eccetera, che riscoprono l'interesse la politica. Credo che questa funzione non vada, come dire, esaurita, non vada. Quindi il delegato, secondo me, va individuato e va individuato proprio con questo ruolo, con quel metodo di garante di quello che è stato primario vero per Como. Garante non vuol dire fare opposizione, non è questo il punto, ma vuol dire avere attenzione a che un'amministrazione, se auspicando ovviamente che si raggiunga il risultato, non si assopisca, non si adagi sotto forma di amministrazione sicuramente più seria, più corretta, eccetera, eccetera, ma c'è il desiderio di una svolta, di dare un futuro a questa città, cosa che sicuramente sta nelle corde, nel pensiero delle persone e nelle possibilità, perché il livello è talmente basso. Cioè. La terza riflessione, tu hai citato Agenda 21. Io ho vissuto, ho partecipato al processo di Agenda 21. Agenda 21 non è una cosa che si esaurisce. Agenda 21 è un percorso permanente. Ai nostri, confinanti, Varese e Lecco, hanno fatto di... Sto parlando di un'amministrazione leghista storica e di un'amministrazione che è stata anche di sinistra. Il fatto di Agenda 21, il percorso, il calendario, no? In larga parte, non in assoluto, ma sicuramente hanno assunto e adottato Agenda 21 come elemento di riferimento, cosa che va fatto sicuramente anche tra i primi atti, secondo me. Quindi recuperare tutta quella vasta partecipazione, io l'ho conosciuto in modo di dal punto di vista sociale, professionale, eccetera, di cittadinanza, a quelli che sono gli obiettivi, quindi a sostegno di un programma. Questo sono il mio problema. Ed era una situazione sufficientemente aperta e non controllata dagli enti o delle associazioni più grosse e importanti in generale? Assolutamente. Non era controllato. Infatti forse per questo che non ha poi... Esatto, finito in un cassetto nascosto, chiuso, basso, non se ne parla. Questo è... Comunque, c'è qualcun altro che è stato in Agenda 21 precedentemente per poter dire il suo parere? Spiegate cos'è Agenda 21, tutti lo sanno. Allora lo spiega Marciano che lo sa meglio di me. Beh, Agenda 21 nasce nel 92, dalla conferenza di Rio. Che è una forma, possiamo in questo caso dire, mondiale, del mondo occidentale, delle Agenda 21, non a caso del XXI secolo, e cioè quelle che sono le prospettive e le aspirazioni per il XXI secolo e che mette insieme centinaia, migliaia, adesso mi sfugge il numero, delle grandi città, delle grandi metropoli, con gli obiettivi, no, su cui muoversi, poi sono stati i contenuti fondanti di Agenda 21, anche di stabilimento di Como, che appunto si basava non per un stimolo, una intuizione felice di questa amministrazione, ma sulla base del progetto di Agenda 21, che era questa conferenza internazionale. Quest'anno è il contesto del 2012 della conferenza di Rio, e che acquista anche simbolicamente un significato importante anche da questo punto di vista. Ripeto, tante città italiane, voi potete cliccare su internet Agenda 21 e si troverà straordinariamente quante cose hanno rappresentato e sono state contenute in Agenda 21. Ferrara è una delle città simbolo, diciamo così, di come ha usato Agenda 21 nelle sue programmazioni. Questo si può dire. Volevo dire qualcosa intorno a questi temi. Prima questione, abbiamo avuto una metamorfosi da PDC a Fare Comune, siamo qui ancora un buon numero e quindi essendo stato promotori di una stagione che ha voluto stimolare la politica, così la partecipazione, io credo che adesso che si comunque vadano le cose non bisogna tirarsi indietro dalla effettiva partecipazione. Quindi Fare Comune deve comunque nominare qualcuno che stia all'interno e che svolga qualche ruolo, vediamo che tipo di ruolo si può svolgere, lo affronterò alla fine. Credo che sia opportuno che i lavori fin qui compiuti dalle commissioni debbano diventare assolutamente divulgati innanzitutto il più possibile, nelle forme più ampie possibile, per creare intorno a questo attenzione, dibattito e consenso, altrimenti che non è che la commissione è un organismo chiuso. Quindi questo gruppo che ha voluto, questo organismo che ha voluto dall'inizio stimolare la partecipazione, deve per forza, va da sé insomma, che ci stia in questa cosa. Quindi io vedo di buono, necessario che ci sia un incontro con i responsabili dei rappresentanti delle commissioni affinché illustrino e si faccia di tutto per far comprendere lo stato delle cose. Vado per sintesi. Qui adesso faccio un riferimento così a una mia più sentita posizione sullo stato della politica di ogni tipo, sia locale che più generale. Io credo, per quel che vedo, leggo, faccio, dico, esiste uno scollamento sempre più grande da parte della gente comune dalla politica, ogni tipo di politica. La politica è un sistema che poggia su una ramificazione di consuetudini, di fare, di agito, che nega l'interesse collettivo, afferma l'interesse personale, afferma il mastruscio. Abbiamo, voi domandate in giro ai muri e dite, chiedete al muro, ma chi è? Qual è la parte politica più attendibile? Sono tutti quanti uguali. Questo è quello che i muri dicono. Io sono un muro, io parlo così, non ne posso più di questa cosa qui. Ho bisogno di nuovo, aria pulita. E allora cosa chiedo, no, a questo PVC Fare Comune? Chiedo, prima questione, si era detto quando abbiamo fatto insieme il percorso che abbiamo fatto, noi non vogliamo le mezze misure, non vogliamo gli arrangiamenti, noi dobbiamo puntare alla eccellenza in ogni settore del gestire comune, qualunque esso sia, dobbiamo puntare all'eccellenza, sia l'ambiente, sia l'economia, sia il marciapiede, sia UEFA, tutto quello che esiste, la conoscenza umana ha prodotto risultati di eccellenza, io voglio riferirmi a quello, studiamo come andare a prendere quello, non devo inventarmi nulla da capo, quindi è l'atteggiamento, no? Come muoversi rispetto a. A quel punto il contenuto, che sia poi i teami, che sia la ticosa, che sia le paratie, no? Io voglio il meglio, Poi mi va bene le paratie, mi va bene le, ma il meglio, non i mastrusci, non le, leggete i giornali, dico una stupidaggine, no? Non so se qualcuno stamattina ha letto, non so, ha visto, non letto, visto, Libero, il titolo di Libero. Follia. Sai, ma è troppo, sai qual è il troppo? È che gente, 70 anni, militanti della sinistra, quella storica, hanno detto sì, sono tutti quanti uguali. Per chi non lo sa, Libero diceva Bersani, un miliardo a un miliardo. E Libero va bene, no? Ma militanti del vecchio PC sono tutti quanti uguali, è questa l'aria che si respira. Io non, se, poi guardiamo il locale, tutti i posti di simbolici, l'ASL per dire che ha una menazione politica per il suo responsabile, ma tutto è così, le banche, l'amico dell'amico, non è, che schifo. Allora, cosa chiedo in questo senso io? Io chiedo, no? Che intanto l'atteggiamento di, per chiedere il meglio, l'eccellenza, il top, la ricerca continua. Per meglio eccellenza, cioè, come? Si intende per meglio allora, eccellenza. Vogliamo parlare, parliamo di, ad esempio, faccio un esempio concreto nostro, no? Nostro, la nostra esperienza. Si parlava di urbanistica, si parlava di ambiente, no? Ora, si era detto, cominciamo a guardare cosa significa la speculazione, qual è la differenza tra centro urbano e periferia. Ci rifacciamo non a quello che mi dice il ragioniere di turno, ma mi rifaccio al pensiero avanzato su, questa, su questo tema, affinché colui quale va ad occuparsi di urbanistica sa esattamente che cosa si intende in termini di efficacia e di efficienza, di periferia, di centro storico, di speculazione. Quindi, non lo dice, no, non dice il ragioniere. Il livello dei tecnici è questo qui. Cioè, potrebbe, no, anche essere, potrebbe anche esserlo, però lo voglio intenderlo questo, non dovete dire, io sono un uomo di strada, non sono un tecnico, non sono uno specialista, intendo dire è il modello a cui occorre riferirsi. Quindi laddove si va ad operare, non accontentarsi delle cosucce di casa propria, che vanno anche bene, per carità, non mica si butta via, ma andare oltre, guardare al meglio che esiste. Chiudo perché sennò diventa troppo. L'altra questione è questa. Il appunto perché la politica poggia su quel malaffare così diffuso, ma perché noi non possiamo chiedere, no, che ci sia un organismo, e troppo forse chiedo, di controllo, che sia capace di verificare, di valutare, di controllare, verificare e valutare quello che si fa, né se corrisponde davvero all'interesse pubblico o da qualche parte c'è spazio per i cacchi propri. E se c'è spazio per i cacchi propri, fuori, no? Ora, questa cosa qui, no, deriva da quell'idea che io ho di bisogno di aria pulita, perché c'è una sfiducia immane su questa politica vecchia, stravecchia, che finisce per accumulare tutti, e do subito una mano a lui. Ma non è vero che fossero tutti quanti persone, no, insomma, abbiamo persone per bene, ci mancherebbe altro, ci sono tante per fortuna, ma sono quelle ridotti a silenzio, sono quelle che non contano. Allora, io chiudo, sì per l'Agenda 21, conosco anch'io Agenda 21, è 20 anni, un anno un po' spuntato, ma a me va bene, perché non ha attecchito mai, è stata sempre un po' così, sembra la cosuccia di apparato che è rimasta lì. Non ha mai avuto, in 20 anni, non ha mai spuntato, non ha bucato lo schermo. Come poche volte. 2005. Ma infatti, no? Allora, allora, dicevo l'altra sera a lei, a Marta, ma così andiamo a risumare una roba vecchia, morta. No, può essere benissimo una cosa viva questa. Se si fa con questo spirito però, no? Uno spirito che dice cerchiamo il meglio, le persone di competenza che valgono, le controlliamo. E risponde, e se c'è spazio per quella porcheria infinita delle cacchi propri, fuori dalle palle. Un organismo quindi nostro, che lo nominiamo noi, 3-4, lo proponiamo come cosa nuova, no? PVC fa questo, non siamo un partito, siamo un gruppo, la spina nel fianco, che vogliamo restituire alle persone un po' di dignità, almeno apparente, no? Proviamoci. Sì. Quindi sono due i temi che potrebbero essere. Uno è quello di trovare delle, diciamo così, delle situazioni come quella di Agenda 21 estate, forse non potrebbe anche non esserci, potrebbe essere un'altra, in cui, diciamo così, i cittadini possono responsabilmente partecipare, perché non è semplicemente una richiesta, come dire, di maggiore trasparenza, è una presa di responsabilità che in un gruppo come quello di Agenda 21 uno fa perché mette del proprio. In quel senso lì non è neanche una ricerca d'eccellenza esterna, è un tentativo di esserci con le proprie singole competenze. Questa qui, secondo me, potrebbe essere un'ambizione. Un'altra ambizione è invece quella di mettere in piedi una sorta di consulta, che è poi l'organismo di controllo di cui parli tu, che è invece una funzione differente, è una funzione dall'esterno di controllare l'operato dei propri candidati e dei politici in generale. Io, ecco, non lo so, quale di queste due situazioni la sentiamo? Perché io non credo che si possa, come dire, focalizzarsi su tutto. Quale delle due situazioni sentiamo più vicina a noi? Quella di stimolare una partecipazione attiva e responsabile o quella di diventare un organismo di controllo anche un po' spina nel fianco, come hai descritto tu? Abbiamo un po', in effetti, come dire, siamo stati sempre un po' a cavallo tra queste due voglie, no? Io non so se qualcuno di voi ha qualcosa da dire su questi due punti qui. La volta scorsa ho fatto ridere un po' di persone che c'erano per te, perché la mia storia è diversa di questo. Di questa niente, io vengo, sono un cristiano del 75, e già mi piace questo sorriso, e ho vissuto sia nelle assemblee che nei corridoi. Qui vedi un segretario, un ex segretario del PC, no, era PDS, scusa, che anche lui sicuramente ha vissuto nelle assemblee e nei corridoi e nei caminetti. Lo vedo qui e nei sottoscritti. Cioè, dico questo perché dovremmo, a mio avviso, mettere un po' i piedi per terra e vedere un po' le spine del fianco. Non cura nessuno una spina, non fanno niente. Io sabato ho visto quel gruppo di signori, li chiamo signori sul serio, che erano il portatorre, non razzismo, non queste cose. Cioè, io credo che dovremmo fare, sono cose da fare, non è che sono contro quelle iniziative, però vi dico un attimo la mia esperienza, dal 75 DC, sempre DC, quando è nato il PDL. Il mio segretario nazionale mi ha buttato nel PDL, nel PC sono sempre stato, se si può dire, dalla parte della sinistra, se si può dire, perché io arrivo qui dalla Sicilia nel 60, ero un extracomunitario in Lombardia, poi ho sposato una lombarda, l'ho aggiustata, il mio suocero ha detto ai suoi amici sì, e un teorico, ma di quelli bravi, ha detto, poi vedremo come comunque. Mi sono trovato nel PDL, sono andato, ero nel coordinamento provinciale, perché da Roma, queste cose grosse, contro la mazza, alla fine ho detto mi dimetto perché non va bene questa roba, non è il mio ambiente, ho votato Bruni, questa è la colpa grave. Però per onestà ero in mezzo, cioè ho visto che ti ho fatto ridere anche questa sera. Tre anni fa ho fatto una mia associazione, che è composta da Bibero, da Angelo, da me, quello che sta parlando, siamo in 4-5 che sono, e mi sono messo in piazza con un volantino, sono stato 8 mesi prima, poi ancora 4 mesi, poi insomma sono stato lì in piazza quasi 2 anni con un gazebo, la mia città, e mi rivolgevo alla società civile. Ma perché questo? Perché oggi non può essere la spina, non può essere cercare il meglio, così bisogna proprio andarlo a cercare. Mi rivolgevo alla società civile perché bisogna ripartire dalla società civile, perché noi l'ultima volta che siamo andati a votare, che eravamo già schierati, il 62%, per cui c'è il 38% c'è una bella percentuale che non va a votare. Questa volta, siccome io a mio figlio ho sempre suggerito di andare a votare, non volevo andare a votare perché mio figlio mi dice: papà, questa volta te lo chiedo io di andare a votare, votare per Lucini, perché dobbiamo cambiare, perché dobbiamo cambiare. Vabbè, andrò a votare. Ma io sono certo che una bella fetta non andrà a votare, per quel disgusto di cui parlava la politica. Perché qui, signora, che manca la politica, sono solo gli affari. E quando dicevo che io ho visto le assemblee plenarie, i corridoi sotto scala, e questa, ma a 360 gradi, non solo la DC di una volta. Cioè, allora, vogliamo provare che non si parte la settimana prima? Io sono partito 3 anni fa con la speranza di raccogliere, ho raccolto una 5.000 persone, infatti ho fatto 3 iniziative come associazione mia città, coinvolgendo altre associazioni su Paolo VI, perché ritengo ancora che la svolta doveva essere allora, su quella politica. Abbiamo fatto su Lazzati, abbiamo fatto su Paolo Giovanni Paolo II, il 18 settimana scorsa avevamo l'intervento di Bagnasco Attoni, che c'era Larghi e c'era Padre Sorge e Magatti, una serata bellissima. Però dobbiamo partire da questa cosa. Una settimana prima mettere un nostro delegato nel gruppo di Lucini, che io ammiro, che è una persona limpida, più limpida non è possibile, lo conosco, cioè malgrado che ero nel PDL, i miei amici sono sempre da questa parte, non da quella parte, da quella parte. Gli dico, non è uno squilibrio, siccome ero impegnato nella DC e la mia onestà mi dice che la DC da Roma l'hanno buttata nel PDL, non ho fatto che nient'altro alla fine di uscirmene. E mi sono dimesso, era un riportamento provinciale del PDL. Ma quando ho visto che il segretario era quello che ha messo la ceralacca nel mio partito nella DC, ho detto veramente non ce la faccio più. E sono uscito, ero in Regione Lombardia a fare porta a borsa, cioè io ho rinunciato anche all'incarico regionale negli uffici di partito, per fare qualcosa di nuovo. Però partire una settimana prima, il nostro delegato andrà lì dentro, infatti il suo intervento perché vede dall'interno che c'è qualcosa che non quaglia. No, mi permetto di dire. Ho letto male. Ma la volta scorsa c'era un candidato sindaco, che sono venuto io. Quest'anno c'è solo una. Insomma, significa che qualcosa non ha funzionato, perché una sera che ero qui c'era un candidato sindaco che doveva raccogliere le firme per fare il ballottaggio. E cari signori, non, le cose questa. Oggi non la sto seguendo. Come la volta scorsa? No, anche io sono perso. Rimettiamo due puntini e poi torniamo sul punto. Voglio dire, mi sta bene, però il lavoro è lungo da fare, non solo. No, il delegato della verità, di primarie vere, ce n'erano 3 prima perché era una situazione organizzativa delle primarie, neanche uno. Ne avevamo per la precisione io, Marta e Danilo e abbiamo seguito tutto il percorso delle primarie. Forse anche con un qualche vantaggio, nel senso che sia stati un pochino di più gli occhi, possiamo raccontarvelo anche a voi di come è andata internamente questa cosa. Ecco, quindi adesso questo delegato diventa uno semplicemente perché è ristretto la coalizione ha un solo delegato per ogni organismo politico. Noi abbiamo questa singolarità di essere considerati un organismo politico senza essere un partito dentro lì e senza neanche per essere una lista, e in questo senso qui io vi invito ancora tutti quanti a sfruttare questa occasione in qualche modo. Non è un'occasione dell'ultimo minuto, è la prima volta che vedo un'occasione di questo genere. E in questo senso qui io vorrei tornare sul punto, cioè io innanzitutto vorrei che uscissimo da questa sala stasera con un comitatino organizzativo che si ritrovi con una frequenza direi settimanale, come abbiamo fatto noi testardamente per questi mesi qui, quando veramente in effetti finita la campagna delle primarie non c'era più quel motivo. L'abbiamo voluto tenere aperta perché il momento poi che è questo in cui torniamo utili. Ecco, io vorrei che questo comitatino organizzativo si allargasse dal gruppetto a un gruppetto un pochino più largo, e vorrei anche che mettessimo in campo delle iniziative nelle direzioni che qui ci siamo detti. E vorrei capire queste iniziative qui, se avete delle proposte in questo senso. Ecco, noi qui questo paio di cose le abbiamo dette stasera, no? Di quello che potremmo andare a fare. Peraltro avremmo anche identificato tra i tantissimi temi che la città offre, avremmo anche identificato il Politeama come un tema caratterizzante su cui potremmo andare a cercare anche di essere propositivi, perché io sinceramente non credo affatto, vedendo anche la fatica che si fa all'interno dei gruppi programmatici, che peraltro qua vi posso dire e confermare che non sono sotto il controllo dei partiti, nel senso che non si sente alcuna influenza partitica all'interno dei gruppi programmatici, il che può anche far pensare che i fini ultimi non siano il luogo dove si prendono le decisioni. Però questa qui è una cosa che magari potremmo andare a discutere se facciamo quel dibattito pubblico quella sera, no? Adesso scusate, mi sono perso un attimo il filo, non mi ricordo più, scusate, cosa stavamo dicendo, no? Io arrivo un po' in ritardo, ho cercato di cogliere un po' il senso di questa riunione. Su questa proposta qui del delegato, io così ho distinto, sono d'accordo, però sono molto sospettoso. Bisogna stare molto attenti, perché di tavoli di tavolini, dove si arriva con tante buone intenzioni per poi essere risucchiati in una serie di meccanismi, di giochi che ti espropriano completamente di tutti i presupposti in cui sei partiti, ne abbiamo visti tanti. Quindi bisogna stare molto attenti. Poi, per andare a dire e fare cosa? Questo è il punto. Questo è il punto. Ci siamo chiedendo. Allora, noi siamo nati sul concetto di partecipazione. La definizione di democrazia partecipativa risuona. Bisogna tradurre questo. Cioè, l'asse portante, credo, la bussola di un soggetto come Fare Comune, che deve cercare di trasferire, no? Sul quadro politico e sulla città, è questo, la democrazia partecipativa. Però bisogna fare tutto. Democrazia partecipativa nasce a Porto Alegre ed è una cosa molto semplice. Il municipio discute con i cittadini parte del bilancio, cioè, in soldoni, è questa cosa qui. Dopodiché possiamo pensare a tanti meccanismi di partecipazione. Però credo che una cosa dovrebbe essere questa, cioè il comune discute con i cittadini almeno una parte del suo bilancio, anche perché in tempi di crisi in cui i comuni sono chiamati, se vogliono andare avanti, a chiedere la collaborazione ai cittadini per fare delle cose, per tenere in piedi una città, è inevitabile. Quindi da una parte è importante politicamente, ma dall'altra parte è anche necessario per qualsiasi amministrazione, se vuole governare una città oggi, deve per forza dialogare in questo modo con i cittadini. E lo dico perché ho spesso sentito dire disponibilità all'ascolto. Non è questa cosa qui. Cioè, ci sono tanti, cioè tutti dicono sì, c'è un bel termine, democrazia partecipativa. Poi, insomma, la traduzione può essere, come dire, variabile. Quindi io credo che sia innanzitutto questo il tema, questa è la bussola poi che ti fa decidere su ogni cosa, che sia l'urbanistica, che sia l'ambiente, che sia qualsiasi cosa, questa è la bussola, no? Attraverso il confronto con i cittadini fai le scelte e vai in una certa direzione, appunto. Dopodiché, secondo me, fare comune, al di là della questione del delegato, è importante che esista ed è importante che venga percepito il più possibile così come è stato percepito PDC. Oggi non è così. Purtroppo, anche se lo spirito di chi anima questo gruppo è lo stesso, per una serie di motivi. Ecco, capiamo. Come viene percepito? Fatelo finire. Come viene percepito? Spieghiamo i motivi. Non è, cioè, voglio dire, non è come dici a fare i sondaggi. No. Come percepisci fare comune? No, voglio dire, percepiamo assieme, cerchiamo di arrivarsi. Come? Beh, intanto è successo qualcosa, intanto è successo qualcosa, io l'avevo detto in tempi non sospetti. Se alcuni dei promotori di PDC avrebbero, a mio parere, dovuto astenersi dal sostenere questo o quel candidato, perché questa avrebbe mantenuta l'integrità del progetto. Sì, no, ma è un dato di fatto, perché se io sostengo, se io animo il PC, poi però sostengo Lucini non vince, io ritorno in PC e dico facciamo un movimento che anche qualcuno può pensare che lo faccio perché ho perso, cioè ho capito, mi sono snaturato. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che c'è stato un vuoto, perché a me la cosa che non è piaciuta, perché a me sarebbe piaciuto che, fatte le primarie, no? Il neo candidato sindaco si incontrasse con gli elettori assieme agli altri candidati, proprio per ridare quell'immagine di unitarietà, perché questo avrebbe aiutato a ricomporre. Quindi ci sono stati questi elementi qua. Questo è un dato di fatto di cui dobbiamo prendere atto. Ciò non toglie. Questa è una cosa su cui penso possiamo fare qualcosa. Io infatti richiamare chi, come dire, oggi il pallino in mano, no? ha dei percorsi. Perché è su questi percorsi che è nata la. Cioè, voglio dire, Lucini ha avuto il successo che ha avuto perché c'è stato questo percorso. Cioè, avrebbe vinto con le primarie, ha avuto, come dire, c'è stata una visibilità di questa esperienza creata da questo, insomma, in qualche modo ci deve essere una relazione fra le due cose, cioè una continuità deve esserci, perché sennò, cioè, voglio dire, siamo stati, scusate, degli utili idioti. Leggendo una cosuccia, no, dopo con di te, proprio in. Vai. Sì, no, io stavo. Condivido molte delle cose che hai detto tu, Enzo, nel senso che a me mancano alcuni passaggi, nel senso che ridevo quando lui diceva, perché sono talmente d'accordo con quello che tu hai detto che a un certo punto mi sono eclissato proprio perché non condividevo una gestione precedente, no, delle primarie vere per Como. Ora io rapidamente, quindi mi mancano alcuni passaggi, quindi magari dico delle cose che non sono diciamo complete, però da primarie, dalla sigla della primaria vera per Como a fare comune non è solo un cambiamento di nome, significa passare da, diciamo, appunto, da un nome che indicava primaria vera per Como sostanzialmente un percorso di tipo metodologico per individuare un candidato, per esprimere una partecipazione allargata per individuare appunto un candidato sindaco. Ecco, fare comune è un nome che a me piace, questo nome, questo è il motivo per cui comunque ho detto vabbè, andiamo a, come dire, riprendiamo a discutere. Fare comune è un nome che, come dire, indica in realtà, certo, poi con tutti i limiti che abbiamo noi che siamo qui, che non possiamo pretendere di costruire in 448 diciamo un soggetto politico piuttosto che ancora meno partiti piuttosto, però insomma, il termine fare comune esprime una intenzione politica al di là di tutto, no? I nomi poi, come dire, come si diceva, insomma, i nomi sono conseguenza delle cose, insomma, alla fine se tu chiami una cosa in un modo piuttosto che in un altro, dietro poi ci sta anche una sostanza, non è solamente un'etichetta. Cioè prima di avere per Como si è conclusa questa vicenda con degli esiti sui quali possiamo discutere, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi ha fatto certe cose, chi ne ha fatte altre, chi secondo me si è mosso in maniera molto ambigua, ma comunque chiudiamola lì questa cosa, si è conclusa, c'è un candidato. Poi giustamente, come dicevi tu, ci sono anche altri candidati che non hanno, diciamo, non sono più il candidato sindaco, io ho perso dei passaggi, sarebbe interessante capire dopo la designazione del candidato quali sono i rapporti reali che esistono tra il candidato sindaco e gli altri candidati che non sono più candidati sindaci ma sono comunque figure di riferimento del centro-sinistra, dovrebbero essere essendosi candidati, quindi avendo catalizzato sui loro nomi un certo consenso. Però quella partita è chiusa e quindi adesso ci saranno le elezioni. Ora a questo punto, secondo me, questa sigla fare comune comunque, diciamo così, esprime un'altra cosa, cioè esprime, ripeto, pur con tutti i limiti che possiamo attribuire a, appunto, a questa esperienza, a questo gruppo di persone, insomma, comunque esprime, dicevo, ripeto, esprime un'intenzionalità politica, cioè esprime, diciamo, come dicevi anche tu, l'idea di proporre all'agenda di questa città, dovrebbe proporre all'agenda di questa città delle priorità, non solo di carattere metodologico, cioè controllare che chi va ad amministrare sia onesto, garantire una partecipazione, cioè queste cose, diciamo così, sono importanti, però io dico, dal mio punto di vista, credo anche proprio dei veri, diciamo, dei veri aspetti che riguardano proprio i contenuti di un programma politico, nel senso che abbiano poi quel profilo lì, fare comune, cioè cosa vuol dire? L'idea che la politica di una città, in questo caso della città di Como, dovrà privilegiare evidentemente scelte che siano a favore del, diciamo, del benessere collettivo, della comunità, di un agire che non sia quello di parlare di speculazione, di interesse privato, di interesse egoistico, di ridurre una città sostanzialmente a come si è ridotta la città di Como in questi ultimi anni. Insomma, questo io credo dovrebbe essere, diciamo così, il cuore. Poi attorno a questo ovviamente ci possono essere anche altre cose. Allora, secondo me la questione fondamentale, per essere concreti, è proprio quello di, diciamo così, lavorare per avere questo confronto programmatico, per capire veramente se nel programma del centro-sinistra, ripeto, a me mancano i passaggi, quindi io non so effettivamente qual è lo stato dell'arte ad oggi, però se questo programma è davvero un programma che ha quel profilo di fare comune, cioè se nel programma di Lucia, perché lui sarà il candidato sindaco, cioè lui è il candidato sindaco, poi le liste che ci saranno non lo so, ma comunque insomma è lui il candidato, c'è effettivamente un profilo di questo tipo, che non può, che non ci sarà sicuramente nel programma del PDL, non ci sarà nella Lega, no? Ma non è detto che ci sia neanche nel centro-sinistra fino in fondo come noi vorremmo che ci fosse, perché per aggiungere e chiudere, diciamo, queste considerazioni, il centro-sinistra insomma, è un campo di forze dentro il quale, ahimè, ci sta dentro tutto il contrario di tutto, anche questo bisogna dirlo. Il centro-sinistra è un contenitore che poi fa riferimento ad un contenitore di carattere nazionale, insomma, voglio dire, non è che il centro-sinistra di Como sono dei marziani, che fanno riferimento, come dire, a un campo politico che oggi, attenzione, perché questa non è una variabile di poco conto, poi può non interferire più di tanto sulle vicende Comaschi, io non lo so, però insomma oggi il centro-sinistra a livello nazionale sostiene insieme al centro-destra un governo, quindi insomma c'è un elemento politico, strettamente politico, dal quale non si può sfuggire, e allora l'idea del fare comune, quindi per dirla in termini più tradizionali, insomma un segno chiaramente, diciamo così, di sinistra, io uso questo termine insomma, ed è il motivo per cui io sono interessato a confrontarmi con voi, altrimenti voglio dire, non... questo credo che debba essere la priorità, secondo me. Sinistra poi cosa significa? Tradotto significa appunto un programma che abbia la dimensione collettiva del comune, del, diciamo così, di quello che è l'interesse di una città, non delle sue singole corporazioni, e questo secondo me è la cosa fondamentale. Quindi tradotto significa appunto il confronto programmatico, avere con il candidato sindaco, ma ripeto, anche come ribadisco, è importante anche capire chi, gli altri che si sono candidati a fare i sindaci, che cosa, perché io credo che saranno comunque figure importanti, insomma, della coalizione, immagino, non lo so. Su questo punto qui proprio una risposta velocissima: come è andata dopo le elezioni con gli ex candidati? Semplicemente ciascuno ha messo sulla propria lista. E questo va bene, ovviamente non è una cosa che uno si potrebbe augurare, è tutto un che fare comune in quel senso lì, però se non altro è una situazione chiara, ecco, da questo punto di vista non ci sono dubbi. Ecco, no, gli attorno, essendo l'unico iscritto del PD, la sua lista è il PD, quindi, però in effetti esiste una lista per ogni candidato. Detto questo, la Gisella non l'ha fatto. Per onestà bisogna dire che secondo me non è l'unica cosa che è successa. No. È successo che io e Chiara facciamo parte per esempio di alcuni gruppi di programma, lei del gruppo economia, io del gruppo cultura e welfare anche, e anche altri nostri amici che fanno parte, cioè esiste un percorso direi di trasparenza trasversale tra i gruppi, perché i gruppi hanno adottato una metodologia abbastanza simile, no? C'è una certa osmosi tra i gruppi, per esempio io ho partecipato al gruppo economia, cioè c'è stata una certa, un certo interesse che è nato reciprocamente in chi partecipava ai gruppi ad adottare una formula che fosse un po' aperta, perché eravamo realmente, anche per l'avere diciamo, condiviso un discorso relativo alla partecipazione, eravamo realmente interessati, oltre che a promuovere la partecipazione attraverso qualcuno, a promuovere la partecipazione attraverso il percorso di scrittura del programma, che secondo me è comunque stato un percorso autentico, perché il lavoro che noi facciamo qui dentro di confronto è avviene ed è avvenuto all'interno dei gruppi, perché si è usata una metodologia direi molto simile. Che cosa si siano detti i candidati lo possono sapere solo loro. Per esempio nel nostro gruppo cultura, e credo che lo abbia fatto anche con gli altri gruppi, il Lucini è venuto ieri sera, in altri momenti è andato in altri gruppi, quindi diciamo c'è una sorta di circolarità di percorso, sì, ma voglio dire, tra l'altro ci sono state un po' delle deleghe, il nostro gruppo cultura per esempio è guidato da Silvia Magni che fa riferimento al PD, il gruppo economia fa riferimento all'Introsi, cioè c'è stato anche nella scelta dei temi una sorta di desiderio di trasversalità mescolativa, per cui non si può dire, non si può dire questo discorso che tu dicevi, che non c'è il controllo di nessun gruppo specificamente all'interno, per esempio di, non so, nel gruppo economia che potrebbe essere quello più sensibile, ci sono rappresentati un po' tutti, quindi da questo punto di vista, cioè, mi sento di dire questa cosa perché no, totalmente. È la nostra sensazione, ma non sono neanche costituiti sulla base della rappresentanza, nel senso che non sono costituiti questi gruppi sulla base della rappresentanza, no, perché per esempio io non rappresentavo nessuno e ho mandato l'adesione al gruppo cultura perché interessava a me quello. Il fatto è che per l'appunto cosa è accaduto, cosa sta accadendo? Sta accadendo che i gruppi di lavoro stanno lavorando abbastanza bene. Voi ne sapete qualcosa se non siete dei gruppi? No. Quindi secondo me il punto della questione è principalmente questa cosa, no? Da questo punto in avanti è ora di interloquire, è ora di pensare che, se, come del resto Lucini aveva anche già detto, che gli step sono due. Uno è un indirizzo, viene formato in questa maniera, che è comunque secondo me uno esperimento riuscito. E poi c'è un secondo step, che è quello di confronto, per cui il programma deve modificarsi in quei due mesi di campagna elettorale. Questa è una questione di cui noi vorremmo anche far parte. Ma noi ce la sentiamo di trovarci attrezzati per questo prossimo incontro, che ragionevolmente sarà i primi di marzo, come cosa, in cui si portano delle questioni al dibattito sul programma. Per esempio, mi veniva in mente, Arci, mi dicevi prima Giampaolo, state facendo una serie di proposte sostanzialmente, no? Questo è un punto, è un posto dove queste proposte possono essere anche pubblicamente espresse, forse. Insomma, voglio dire, io vi inviterei singolarmente a trovarsi, a costruire questo tipo di dibattito che dobbiamo andare, per farci trovare attrezzati. Io sono convinto che se questa cosa la comunicheremo bene, dato che la richiesta pubblica esiste di interloquire su queste cose, che il prossimo incontro si riesca a far funzionare quello che sta nel nostro nome, no? Che è l'idea di fare comune in più di un senso, come tu hai capito benissimo, no? È fare comune nel senso di fare assieme, ma è fare comune nel senso costruire la prossima amministrazione, questo è anche fare comune. E ovviamente il riferimento a quello della difesa dei beni comuni come punto principale. Quindi insomma abbiamo dentro in effetti nel nome tutti questi indirizzi. Io credo che nonostante il fatto che non sia stato presente negli ultimi passaggi, Gianfranco abbia identificato bene, perlomeno per quello che mi aspetto io da fare comune, bene quali possono essere gli obiettivi, nel senso che non dobbiamo dimenticare una cosa: molti di noi non hanno partecipato alla competizione. Ok? Quindi in realtà noi siamo già stati altro rispetto a quello che si è verificato con le primarie, nonostante fossimo tra i promotori delle primarie, perché uno dei risultati più vicini è stato proprio delle primarie che hanno dato un'adesione che è stata quasi doppia rispetto all'ultima volta. Questo lo dico anche io. Io credo che, e quindi non ci sentivamo rappresentati da quei candidati, perché non li abbiamo appoggiati? Perché per alcuni versi, noi l'abbiamo detto più volte, io l'ho sottolineato più volte, pensavamo ad arrivare con un candidato anche o comunque con una posizione molto più delineata a sinistra. E molto più delineata a sinistra significava per noi, e credo che stia dentro nel discorso di Gianfranco, anche perché lo conosco, sia avendo dei valori di riferimento che sono anche di rottura nei confronti della situazione attuale del Comune di Como e certamente anche rispetto a quello che diceva il giudice rispetto alla situazione nazionale, che comunque inciderà sul voto. Noi ci apprestiamo ad andare al voto con un candidato che è appoggiato dal partito che è maggioranza del governo e che si è reso partecipe, si rende responsabile di alcuni provvedimenti a livello nazionale che poi avranno ripercussioni su di noi, hanno in questo momento ripercussioni su di noi, no? Io credo che fare comune debba fare due cose. Io non ho mai, devo dire che contrariamente a quello che ti avevo detto all'inizio, sono soddisfatto della partecipazione, poi si è tradotta bene e credo che sia stato giusto che tu abbia insistito sull'assemblea. Io ero molto più scettico. Però io non metto in competizione i due aspetti di fare comune. Uno è quello di portare alcune delle cose espresse in assemblea e fra di noi negli ultimi mesi, quando ci siamo trovati alla vignetta, eccetera, nei gruppi di lavoro. Cioè, nel momento in cui noi parliamo nei gruppi di lavoro, è vero che siamo noi stessi, siamo molto più liberi di chi invece ha dietro un partito, eccetera. Perché? Però portiamo cose delle quali abbiamo discusso a fare comune. Fare comune è stato importante, il TVC e poi soprattutto anche fare comune, è stato importante tenerlo vivo in questi mesi, perché si è resi conto che ci accomunano alcune cose sulle quali possiamo insistere affinché vengano inserite nel programma del centro-sinistra. E queste cose dovrebbero passare attraverso i gruppi. Il problema è vero quello che diceva Ida Paola, nel senso che è vero che i gruppi sono gestiti in modo democratico. Io ho qualche dubbio sul fatto che poi, quando si tireranno le somme, e ne ho avuto un po' una segnalazione oggi, chi ha letto la polemica della nostra cosa ha capito dove stiamo andando, nel senso che poi quando si tirano le fila, Dio mio, scappano delle cose che per noi erano importanti. Oggi ad esempio c'è stato un intervento all'ultimo, nel momento in cui bisogna scrivere che cosa il gruppo deve fare, intervento una mail, poi un'altra mail, la mia risposta eccetera, sulla mia proposta che era stata accettata benevolmente di istituire il registro delle coppie di fatto a Como. Questa cosa all'ultimo momento c'è stato qualcuno che ha tentato. Quindi questi gruppi, il nostro ruolo è insistere in questi gruppi perché poi vengano portate avanti alcune cose che per noi sono importanti, come ad esempio il fatto di una gestione diversa degli spazi culturali. Noi abbiamo fatto delle piccole sciocchezze, cioè quando siamo andati al Politeama, quando siamo andati in cose eccetera, ma era anche per rafforzarci delle nostre idee rispetto a quelle che era il futuro di queste aree, che sono lì e sono gestite in un certo modo e che rischiano di continuare a essere gestite in un certo modo. E quindi una cosa, quindi questo è un aspetto di noi che siamo in fare comune e allo stesso tempo partecipiamo al programma, quindi non ci siamo tirati indietro. L'altro è l'aspetto forse più difficile da spiegare e da portare avanti, ma che è altrettanto valido e che è un percorso nostro in autonomia rispetto a quello che avviene nelle stanze dei bottoni, chiamiamola così, e che a noi interessa, perché è un confronto politico che finalmente si è aperto fra di noi. Cioè, questa è stata l'occasione per molti di noi di rimettersi lungo la corrente e di rimettersi in discussione rispetto ad alcune certezze e di ritornare a discutere. Questo è uno spazio di discussione, è questo che vorrebbe essere fare comune poi. Il ruolo di fare comune è il luogo di discussione, una bacheca aperta a tutti, certamente avendo riferimento a alcuni valori fondamentali. E io ritorno anche all'inizio di Prima Rivera per Como, quando in modo anche polemico, eccetera, ci si era confrontati su quella che doveva essere la Carta dei Valori. E la Carta dei Valori rimane per noi. La Carta dei Valori era di Prima Rivera per Como, non di chi poi andrà a confrontarsi con il PDL, eccetera. E noi abbiamo tutta l'interesse affinché questa Carta dei Valori sia però fatta propria dal candidato del centro-sinistra. E quindi l'azione di fare comune è un'azione che sulla quale dobbiamo riprendere a dare continuità anche in assemblea. Quindi se stasera viene fatta l'assemblea, poniamoci l'obiettivo di farne un'altra, di farne almeno una mese. Ma allo stesso tempo poi fare comune è un gruppo che si trova tutte le settimane. Diamo continuità a questa cosa, però a noi piacerebbe che ci fosse più gente. Anche perché se no l'obiettivo è anche la partecipazione, poi essere sempre noi, siamo limitati. E un'ultima cosa, mi piacerebbe che fare comune prendesse la strada delle circoscrizioni. Delle che? Delle circoscrizioni, nel senso dei quartieri popolari. La sinistra è sempre stata forte nei quartieri popolari a Como. Da 20 anni la sinistra non è più presente nei quartieri popolari. Mi piacerebbe che alcune delle iniziative che pensiamo, che ipotizziamo, guardino oltre la Convalle, tenendo conto che Lucini vince lì, perché la circoscrizione 3 conta 19.000 abitanti, la circoscrizione di Sannino, non so quanti ne conta, so se lo sa, 18 circa, ecco, Albate, che è comunque una circoscrizione, e guardate che queste tre circoscrizioni che sono basilari sono state conquistate nel tempo dalla Lega e dal populismo del PDL, ok? Su questo quello un... era il nostro terreno di caccia una volta, quando facevamo politica. Sì, di caccia perché in effetti, ma non perché eravamo possessori di voti, non con quella concezione, ma perché c'erano i ceti popolari. Adesso anche la struttura sociale è cambiata, sono per molti versi quartieri dormitorio, eccetera, ma sono ceti popolari, non è che sia cambiata totalmente. Una sconfitta nelle primarie, chiudo qui, scusate, è stato il fatto che al voto ha partecipato solo la circoscrizione delle circoscrizioni della periferia, solo la circoscrizione dove aveva punto di riferimento diretto Lucini, Albate. Se guardiamo i dati di Prestino e di Sagino, ragazzi, mani nei capelli che ce li ha, perché è stata drammatica, è lì che si vincono le elezioni. È lì, non è solo la Convalle. Ecco, portare ad esempio dentro nella discussione del futuro sindaco il fatto che forse bisogna tornare a vedere i quartieri popolari, a vederli e visualizzarli e capire quali sono le loro esigenze, forse potrebbe essere uno degli stimoli che noi possiamo dare con questo. Certo. Tocca a me. Tocca a Marciano. Io vorrei. Da un po', che con un postino. Vorrei riprendere una cosa, io ascolto sempre con grande interesse il ragionamento, diciamo, corto, ma non vuole essere delle riflessioni. Però il mio problema è sempre quello di portare alla concretezza sul terreno le cose essenziali. No? E riprendendole le altre, prima, la democrazia partecipata. È una cosa fondamentale da questo punto di vista, no? E guardate che ritorno ad Agenda 21, non è una cosa vecchia di 20 anni fa. Agenda 21 era un momento di grande importanza di democrazia partecipata, ampiamente ignorato dai partiti e dal sindacato. E la dice lunga questa, nelle distrazioni, no? anche perché c'è un vuoto proprio di conoscenza. E allora, se noi ci trovassimo qui di fronte, quando noi di fronte di ai candidati, eccetera, viene ricordato, primo, Como è penultima in Lombardia per raccolta differenziata dei rifiuti, è al 37,8%, ma questo non è soltanto un obiettivo ideale, facciamo altro, no, è un obiettivo economico di grande importanza, perché ci sono 2 milioni di euro che vengono sprecati per portare il 60 e tanto per cento in discarica, è chiaro, sono 2 milioni di euro che una volta alzato vengono, possono essere utilizzati e per trasferire dal bilancio della partita corrente a quello dell'investimento, delle politiche sociali o dell'investimento, sono 2 milioni, eccetera. L'altro elemento, e quindi siamo sul piano economico, si ritorna al valore, all'importanza, al senso di agenda economica. L'altra questione, lo dice il piano provinciale, il piano energetico provinciale, scritto da provincia di Como, eccetera, eccetera, che dice che entro il 2012, cioè entro quest'anno, la provincia di Como, quindi la città di Como in quanto tale, deve ridurre di 1.300.000 tonnellate di CO2 in atmosfera. Va bene? Si è fatto ben poco, c'è stato molto spontaneismo dei comuni, ma siamo lontani dall'obiettivo del 2012. 2 tonnellate per cittadino di CO2, ma significa un'enorme quantità di cose di carattere economico che portano alla qualità della vita. Primo, c'è un problema di edilizia, va bene? Cosa si fa in edilizia? Nella ristrutturazione anziché nel consumo di suolo, va bene? Cosa si fa nei trasporti e nella mobilità? Guardate che il Como, va bene? È campione mondiale per intensità di traffico, campione mondiale, con 78 automobili per 100 abitanti, con il livello di inquinamento che conosciamo, e quindi in quelle due tonnellate c'è un obiettivo. Cosa pensi, in questo caso Lucini, nell'arco della legislatura, no, di poter ridurre 260.000 passaggi, una città di 85.000 abitanti ha 260.000 passaggi di mezzi a benzina, gasolio, eccetera, eccetera. È chiaro? Quanto pensi di poter ridurre in questo senso? Perché se solo parliamo del 10% sono 26.000 passaggi in mezzo. Ma questo non si realizza con una delibera di consiglio comunale, si realizza con una serie di progetti che sono di trasporto pubblico, di limitazione delle penetrazioni, eccetera, una serie di questioni che sono ancora una volta di questioni di grande carattere economico e di grande carattere di qualità della vita. Di grande qualità quando si parla di Agenda 21 è il luogo di dove abita l'uomo, il cittadino. Quindi mi spieghi in questo senso qui che cosa significano queste cose che noi vogliamo chiedere a chi ci rappresenterà in amministrazione comunale. Quindi in questo discorso mi piace tornare, scusatemi se mi ci accorgo, ma tornare ai fatti, agli elementi concreti, elementari. Sulle cose. Marcello ha già fatto un preview di quello che si racconta nel gruppo con cui partecipo anch'io con lui, Territorio Ambiente. Peraltro dicendo, nominando proprio i due fatti, mobilità e riciclo dei rifiuti, che sono proprio quelli in cui i cittadini o partecipano davvero o non si fa, perché sono le cose che richiedono la responsabilizzazione stessa dei cittadini. Quindi in questo senso qui non è che dobbiamo semplicemente andare a chiedere a Lucini o a chi come noi sta partecipando al programma che cosa si vuole fare, ma bisogna semplicemente convincere e convincersi che bisogna farlo. E questa cosa qui, secondo me, pure è uno degli aspetti che potremmo, come dire, contribuire a migliorare. Brevissimo, no. Io vorrei partire un attimo dall'intervento di Enzo, però poi tanti spunti che gli altri interventi successivi hanno dato, molto interessanti. Un po' così tutto gira intorno all'identità di questo fare comune. Fare comune non è vero che è una cosa nuova rispetto al passato, fare comune deriva da PVC. Fare comune è stato quella cosa che ha detto: facciamo emergere dal basso il nuovo affinché poi si misuri con gli altri secondo dei criteri, dei valori, e poi chi perde appoggia chi vince, era questa la strada, no? Abbiamo alcuni, come dire, peccati di origine che ci portiamo dietro, no? Abbiamo anche dei pregi, però abbiamo, che sono nostro patrimonio. Peccato originale a cui forse alludeva Enzo, che mi ha sempre tormentato, mentre si dice facciamo emergere coloro i quali spontaneamente possono correre, poi i promotori appoggiano qualcuno, e questa è una porcata che a me proprio non ho mai digerito. Forse pensavi a questo tu, non lo so se pensavi a questo. Per me questo è un peccato d'origine, ma comunque, no? Non la chiamo, definisco porcata. Cioè, no, io chiamo porcata. È una smentita di se stessa. Mentre mi dici, grossolano errore politico. Ma facciamo emergere chi poi appoggia prima ancora, non sono cose da farsi queste, no? Stiamo sempre al bisogno del nuovo, del pulito che dovrà venire. Però cos'è accaduto poi di bello, no? Che davvero siamo andati alle primarie, che davvero abbiamo in conferenza approvato la Carta dei Valori, davvero i quattro candidati insieme hanno detto sì, va bene, no? Le mie forze sono qua, chi è che perde appoggia quell'altro. E questo è il nostro patrimonio, questo qui. Ora, se abbiamo un sindaco candidato adesso, io credo che noi non possiamo essere fuori da questa significato, questo è il nostro, io voterò lui, ovvio, ma l'azione di fare i comuni è un'azione che deve recuperare tutte le risorse degli altri candidati affinché siano spese a favore di questo, perché sia consolidato un obiettivo il più possibile, no? Dicevo giustamente poi Luca, beh, ma è vero, poi i bacini che ti danno il consenso sono quelli di quartiere, no? Specie laddove poi sono radicati questi candidati. Cavoli, benissimo, no? Cioè abbiamo tanta roba su cui pensare per poter svolgere un'azione per concretizzare il contenuto. Che cosa vuole il quartiere? E noi lo rappresentiamo. Cosa hanno detto le commissioni? Se sono in un dibattito, noi le rappresentiamo e le sosteniamo. Tutto questo, è ovvio, deve andare poi con quanto io poi chiedevo prima, no? Dentro un come di pulizia. Quindi io sono, ribadisco, per il rappresentante, sono per stimolare un dibattito pubblico fra quello che le commissioni hanno detto fino ad oggi, sono perché si recuperi la sinergia fra i candidati, tutti i quattro candidati, a favore di quello che abbiamo, e sono perché poi si determini uno strumento di presenza efficace. Due cose veloci, io dico che questa cosa qui, certo, io credo che ce la dobbiamo conquistare, perché non è per niente scontato che vengano qua i coordinatori dei gruppi, certo, piuttosto che Lucini stesso, a dibattere in questo luogo. E quindi questa cosa ce la dobbiamo conquistare, la presenza di stasera era necessaria e sarebbe ancora più necessaria altra presenza, quindi vi invito a partecipare all'organizzazione perché la prossima volta venga bene, altrimenti mi dispiace ma non ce la facciamo a semplicemente a interloquire in questa maniera qua. Su quello che dice Luca sulle circoscrizioni, ma mi viene in mente di proporre che siccome credo contemporaneamente sia alla necessità di uscire dalla Comballe, sia alla continuità di eleggere la circoscrizione 3, di cui mi sono innamorato quando siamo andati a fare questa azione teatrale, la circoscrizione 3 come il luogo dove fare le prossime assemblee, in maniera però fissa, secondo me, senza diventare itineranti di circoscrizione in circoscrizione, anche perché insomma è l'inizio di una rivitalizzazione della piazza centrale, della piazza di Camerlata come luogo centrale, che è una cosa che stiamo anche dibattendo e su cui io continuamente insisto all'interno del gruppo, e secondo me è cominciare a buttare uno stimolo in un punto, e forse non è più il caso di trovarci qui, che non ha più nulla di stimolante, secondo me. Scusami? Porca vacca, io la facevo facile. Vabbè, quanto costa? 92 euro. E non è mica poco. Ma se la tiene così, costa questo locale? Eccolo. Io volevo ricordare. Chiedi come associazione. Addirittura se. Ma noi non siamo un'associazione, non siamo niente. Va bene, turno, eccoci. Nella quella riunione nella quale si decisero o si comunicarono dei gruppi che avrebbero lavorato, si parlò poi alla fine di una cosa importante che secondo me stiamo dimenticandoci un po' tutto, cioè il discorso sulla comunicazione. D'accordo? Che vuol dire la comunicazione fra di noi, perché anche qui non è che tutti siano sempre più o meno gli stessi. E quindi magari, non so, se ciascuno di noi banalmente si occupasse di fare una catena di Sant'Antonio e portarsi due o tre persone, potrebbe già essere un punto di partenza, no? Ma il problema vero è che se vogliamo davvero vincere queste elezioni, bisogna avere delle strategie di comunicazione nei confronti di quel 40% che o non voterà. Questo è cioè, la cosa importante secondo me. Allora, il discorso dell'andare nelle circoscrizioni e nella periferia, secondo me è ottimo, è una cosa importante. Però anche nel far capire, nel conoscere all'opinione pubblica, sia il programma, ma anche, scusate, un po' di aggressività nel dire le schifezze che sono state fatte. Cioè, credo che debba far parte di una strategia di comunicazione per una campagna elettorale, anche dire, ma sapete quanti soldi ci sono? Hanno mangiato, quante cose sono state giocate, queste cose qui la gente comune purtroppo non, magari non le sa neanche. Cioè, credo che bisogna insistere su questa cosa se vogliamo che davvero non siamo solamente noi, ma che un gruppo maggiore di persone possa convincersi che forse è il caso di cambiare pace. Io credo che le strategie d'attacco manchino in questa campagna. Quando tu hai citato la comunicazione, perché noi abbiamo fatto un giochino in fondo a quella riunione, abbiamo aggiunto un gruppo e ci siamo messi, ci siamo segnati, soprattutto noi che ci troviamo di solito come fare con noi, e abbiamo detto gruppo comunicazione. Il problema è che la risposta da parte del candidato e di chi sta dietro il candidato è stata no, la comunicazione noi la intendevamo come comunicazione proprio come intendi tu, e loro hanno detto no, in realtà la comunicazione ci sarà degli specialisti che cureranno la comunicazione che ha detto il sindaco. No, però dopo questa cosa ci ha chiamato e ha detto con questa cosa però ancora l'altro giorno durante il gruppo welfare ci è stato detto chiaramente che la comunicazione verrà gestita da un gruppo di specialisti. Secondo me è un grosso sbaglio. Cioè, come fare comune, proprio perché l'obiettivo è anche comunicare, questa cosa è un grosso sbaglio. È un grosso sbaglio. Cioè, non sta nel nostro percorso. Diciamo che non sta nel nostro percorso, perché io ritengo che in realtà, più che essere uno sbaglio, è una cosa che non esclude affatto quel tutto il resto. Noi possiamo comunque... Quella è la comunicazione mediatica. Dato fatta che siamo liberi, possiamo comunque perseguire. Anche la cosa di comunicazione, il blog primario vede per come? No. Non c'è un blog primario. Certo. No, gruppo Facebook. Quello è... Ah, ecco, vediamo il permesso tutti voi di segarlo stanotte. Facciamo così: vediamo il permesso tutti voi che stanotte torniamo a casa. Esiste, seguiamo il gruppo Facebook. Più, il soggetto che ha dato vita non esiste più. Né, cioè, esatto. A me continua ad arrivare. Cioè, povero Arrighi, troverà un altro posto dove vomitare. No, Arrighi è già su Faro Comune. Sono tirato fuori un paio di mesi fa. Sono cassato. Il problema è che prima di avere un gruppo Facebook doveva essere chiuso, perché è chiuso all'esperienza. Nessuno, nell'ultima assemblea di Faro Comune, penso l'ultima, si era deciso esplicitamente di chiamarci Fare Comune, proprio perché era finita l'esperienza di Vari Avere per Bruno. Due giorni dopo è spuntato in Facebook, ma non per iniziativa del gruppo Fare Comune, e questa è la cosa paradossale, ma non so bene di chi. Paolo Sinigaglia. Non è perché io rivendico la primogenitura su Fare Comune, ma è successa questa cosa un po' peculiare, per cui è stato attivato un gruppo senza che noi lo sapessimo, cioè ci siamo trovati invitati non amministratori di questo gruppo, senza regole, il che può essere anche positivo se però hai delle persone che rispettano un pochino il mandato di discussione. E in realtà non succede questo. Cioè, la discussione sul fare comune, io l'ho messo anche l'altro giorno, ho detto, ma caro, venite all'assemblea. Perché? Perché la discussione che c'è sul gruppo di Facebook non ha niente a che vedere con quello che abbiamo discusso ad esempio stasera, o quello che di solito ci proponiamo di fare. Cioè, a volte io ho fatto fatica in questi giorni a tenere come prima notizia il fatto che c'era l'assemblea, infatti l'ho messa ogni giorno. Ogni giorno per superare Arrighi c'era questa necessità di mettere il messaggio. Ma cazzo lo frego. Ma veramente dobbiamo decidere. Per essere operativi su questo, allora possiamo dire che da stasera abbiamo la possibilità di segare noi il gruppo di primarie o non abbiamo la possibilità? Credo che sia il meggiolato. Io ero rimasto a quello. Quindi chiederemo esplicitamente di chiudere il gruppo primarie facendo transitare, se possibile, no, gli iscritti di là, nel senso comunicando. E di là cosa facciamo? Di là ci vuole un moderatore. Ci vuole un moderatore, ma non solo c'è un moderatore. Io mi sono accorto, infatti. Anche parlare con chi ha fatto questo profilo e dici, senti, ti faccio un po' d'accordo. No, ma abbiamo già i diritti amministrativi. Abbiamo già tutti i diritti amministrativi. Fa fatica a mettere in prima, come dire, in evidenza la notizia dell'assemblea, cioè... No, cioè, c'è un problema di protagonismo di qualcuno. C'è bisogno di moderarlo in una maniera anche netta, no? Dicendo proprio questa cosa, te la seguo, flick, e ne fai passare. Insomma, chi fa questo sporco lavoro? No, più che altro bisogna stabilire se le cose devono essere inerenti soltanto alla politica locale, allora hai un panorama. Cioè, il problema è, tu discuti di una cosa a livello nazionale e internazionale, però certamente dando un riferimento alla questione locale e alla questione che si stia muovendo su alcune cose. Allora va benissimo che tu mi citi anche alcune cose a livello mondiale, ok? Però ci sia un riferimento e una discussione, riporta la discussione. Non è un gruppo qualsiasi, è un gruppo che sta tentando di portare avanti alcune cose per la campagna amministrativa. E Luca, sai che non l'abbiamo mai scritto? Secondo me non è Facebook che lo scrive. No, l'ho scritto ripetutamente. No, ma non l'abbiamo mai scritto, nel senso che tu entri sul gruppo Fare Comune e non c'è scritto. E poi fatto, non l'abbiamo fatto noi. E no, però abbiamo il diritto amministrativo di fare tutto ciò che vogliamo. Adesso non attacchiamoci a questo fatto. Non lo vedo un grosso problema a chiamare Paolo. Ma no, ma Paolo l'abbiamo già chiamato. Appunto, ma di dire di eliminare il gruppo Fare Comune, farlo sparire e poi di riaprirlo con i diritti di amministrazione e il gruppo di Fare Comune, specificando quelli che sono gli obiettivi, le cose eccetera, e poi chi si assume il compito. Sì, ma sono quattro modifiche che si possono già fare. Basterà che ci sia una persona che fa da moderatore. Ha aderito anche persone, e quindi farlo, buttarlo via, tutto un po'. Invece, se riusciamo a gestirlo, no, ma tu non è che devi, è già qualcosa. Va gestita anche la transizione, nel senso che parli con Paolo e dici... No, non c'è transizione. Abbiamo parlato con Paolo già quel giorno e da subito, semplicemente, si è tirato da parte e ha detto, ops. No, e quindi da questo punto di vista io non farei dietrologie. Da quel momento noi abbiamo i diritti amministrativi sul gruppo di Fare Comune e semplicemente non abbiamo voluto prenderlo in mano o non abbiamo potuto facciamo con la stessa. Per un lungo periodo ho temuto che qualsiasi intervento su interventi venisse preso come una censura. Esatto, questo è sempre stato il problema. Okay. Però abbiamo fisso il perfetto. No, basta definire, se bene il mio office, sicuramente che lo rimando sulla posta. Chi qui. Ma chi se la sente di fare questa parte? Di moderatore? No, io l'ho tolto. Di barbare, sulla porta. Gian Paolo te la sento. No, io volevo intervenire. Sì, hai ragione, un po' che Gian Paolo si è provato a piangere. Vediamo un attimo. No, io guardo te, e tu lo sai, è così, è fatto. Poi ovviamente chiunque altro se la sentisse invece di proporsi per fare il moderatore su Google Facebook sarebbe benvenuto, immagino, da parte di tutti. Però se nessuno è un frequentatore, innanzitutto quanta gente qui è iscritta al gruppo Fare Comune su Facebook, tanto per capirci? Chi è iscritto? io sono sul primario. Cosa? Meno della metà, la fine, non si è detto neanche sono stato. Quindi io credo che su questo argomento qua dobbiamo fare la prima cosa è chiedere al vecchio amministratore di primarie di chiudere il gruppo di primarie. La seconda cosa è leggere questa sera tra di noi chi si prende il compito di fare il moderatore. La prima cosa che fa questo moderatore è scrivere numero 3 righe di presentazione sul gruppo Fare Comune che dice che ogni argomento ha per forza di avere un riscontro locale. Sì, tu ci riusciresti benissimo, ma ci riusciresti benissimo sicuramente anche Raffaele. Quindi io non so, decidetevela tra di voi chi si piglia questa rogna, ma prendiamoci questa rogna perché non si può andare avanti così. Chi prende questa rogna ha mandato di uccidere, nel senso che può segare le cose che ritiene a suo proprio insindacabile giudizio, a meno che poi non ne vengano fuori dalle proteste. Una manovale, così imparano. Esatto. Perché mi rifiuto. È facile. Anche io mi sono rispettato fino a quest'anno assolutamente ho girato la patata e c'è che quello che mi dentro e non ti risponde alle mail, ti risponde di solo proprio. Luca, tu sei attivo, cioè, lo io conosci, già, sai come farlo, io mi tocca stare a legge, cioè, mi tocca stare a legge, no, tu sei già nelle condizioni di farlo da stasera, ce ne giriamo sei un admin, c'è lì la crocetta, sei no. Cioè, io ho pensato, ti faccio aprire uno, Raffa ti fa non ce l'ho fatta. Guarda, adesso glielo tiro via da righi. No, io cancello via qualche puntata. Non ce l'ho fatta. Stato... Al limite, non passare la transitaglia da lui. Ma possiamo essere anche più umani. Possiamo potete farlo tutto. Oh, che bella roba! Fare comune esattamente questa cosa. Può farlo anche la Marta, può farlo. Tutte e tre. Ah, se pensi già amministratrice te no. Basta, l'abbiamo decisa, l'ho fatta assieme. Oh. Io non le leggo le cose. Luca e Raffa, Luca e Raffa, l'abbiamo decisa, lo fate tutte e due. No, lo facciamo. Lo fa tutto il gruppo, lo fa, no? Non svegliamoci. No, tutto il gruppo no. Sì, è vero che se il gruppo di solito è diciamo una specie di comitato direttivo. Tutti hanno l'accesso. Tutti possiamo questo fare. Possiamo allargarlo a tutti, però uno si deve prendere la responsabilità di farlo e fa un po' da filtro, insomma. Ecco. Giampaolo, no, questa è la mia decisione. Il merito di questo delirio è che c'è però un problema un pochino più grande, nel senso che non si può pensare che c'è un gruppo che peraltro ha obiettivi così giustamente ampi, utilizzi questo strumento di Facebook come surrogato del dibattito, perché questa è una follia. Cioè adesso no, Marco, lo so che tu non lo pensi, però dobbiamo per forza avere altri modi. Adesso io non vorrei ritornare ai piccioni, ma ad indire le assemblee sono molto meglio le mail, che è una cosa più semplice, perché il sistema di dire, in questo caso è arrivata, questa volta no, la volta scorsa era arrivata anche la mail. Sì, anche questa volta è arrivata la mail. L'ho vista io, ma comunque la mail. Però il problema è riprendere anche... Ah, sugli appuntamenti che rimando io ci sempre. Gli appuntamenti che rilancio io ci sempre. Allora, Facebook è una cosa molto giustissima, va bene, è giusto fare le cose, sono perfettamente d'accordo. Quello che manca di più è il 4 righe che dicono cos'è. Questa mi sembra la cosa più urgente. Dopodiché però non si pensi, perché poi ci sono alcuni frequentatori di Facebook che poi non partecipano mai a nulla, rimangono lì nel loro mondo virtuale e chissà pure se esistono. Non neanche se allora, chissà poi se poi può essere una persona di tre nomi diversi. Quindi Enzo Righi. Ma conoscendolo di vista molto bene. Detto questo, ragazzi, lei c'è un cazzo da dire, però se. Detto questo, detto questo, cioè la questione per esempio di dare una regolarità nelle assemblee, per quanto sia costoso, è uno strumento di democrazia, perché il fatto di dire che un gruppo si vede una volta al mese, mi sembra detto di così, non è realistico, una volta al mese, possibilmente sempre nello stesso posto, è un modo per permettere poi la partecipazione. Io mi spingerei addirittura a dire il terzo mercoledì del mese, salvo eccezionalità. Andando poi al merito delle questioni un po' più grandi, no? Io penso questo, per me va benissimo, come dicevano in tanti, che il gruppo dia un proprio nome per partecipare a questo tavolino. Questo, in che modo deve esserci qualcuno di fare comune lì? Con, come dire, il mandato di tradire continuamente. Cioè, quello che era già successo prima, perché la presenza di alcuni di voi nei tavoli come primari per Como è stata utilissima per far uscire fuori le cose man mano che si discutevano. Questo è il vero valore, cioè tradire quel mandato malposto di segretezza, che è la condizione che crea poi anche il sotterfugio o almeno l'errore, senza che nessuno gli dica stai facendo una sciocchezza, riveliamo. Poi la dipendenza. Quindi io darei prima di tutto questo mandato, e francamente mi sembra che sia vero che il mandato di non tanto spina nel fianco quanto porta aperta è un mandato che è più credibile se poi il soggetto non è candidato, non ha, è evidente questo, anche se ha riconosciuto che siccome i diritti politici sono appunto inalienabili, non è che uno può dire a qualcuno se fai parte di un gruppo poi non ti devi candidare, perché è una questione di sensibilità, non è un illecito. Io questo credo, anche rispetto alla storia precedente, appunto si è trattato di un errore probabilmente per ingenuità, ma non si è trattato secondo me di una, come dire, di un sotterfugio, ecco, è stata, insomma, per usare un termine inglese, una cazzata più che non so una, sicuro, ecco, questa è la mia opinione, no? Io però ritornerei un attimo alla cosa che sono state dette da tanti, per evitare che anche fare comune prenda quella piega totalizzante che aveva primaria avere per Como. Allora, mi spiego. Il compito di garanzia è comune in teoria a qualunque formazione politica. Però questo gruppo di persone, oltre che darsi questo compito di garanzia, si dà anche il compito di fare comune? Io dico di sì, perché a me è piaciuto, per esempio, nella storia di primarie vere per Como, è piaciuto che la frase che nella prima stesura della Carta dei Valori era il bene comune fosse trasformata nei beni comuni, con un'inversione di significato praticamente di 180 gradi. Allora, è questo un po' il ruolo, tenendo anche presente, e qui vengo alla questione della campagna elettorale, che per una serie di motivi, lasciamo perdere quali, c'è un pensiero di sinistra che è e sarà sostanzialmente escluso dalle liste. Questo pensiero di sinistra corrisponde per esempio oggi a coloro che, pur avendo salutato con gioia il governo Monti, non ne apprezzano la politica. È molto probabile che la quasi totalità dello schieramento Berlusconi si collochi, lo diceva mi pare prima Luca, si collochi in questo gruppo. Allora, anche dal punto di vista elettoralistico, bisognerà che qualcuno si differenzi su posizioni che io non definirei più radicali, ma definirei più realistiche, visto che è evidente che da una parte la partecipazione, dall'altra la rinuncia alla follia liberista è oggi un elemento di ovvietà, salvo che in alcuni salotti italiani. Quindi questa cosa noi ce la prendiamo o nuovamente pensiamo di rappresentare tutto? Perché a me quello che dava un po' fastidio di primare l'ere per Como è che volesse essere tutto il bene. Ora, una parte del bene lasciamolo pure ad altri. Ecco, tutto il bene non siamo noi. Cioè, a me interesserebbe un'enfasi sul fatto che questo gruppo si dedica alla partecipazione, che per me è di per sé un valore di sinistra, anzi è tema, e si dedichi alla questione dei beni comuni, cioè ai diritti, a questi temi, in maniera enfatica rispetto ad altri, che non vuol dire non occuparsi dei marciapiedi, per carità, anche quelli sono beni comuni. E da qui farei discendere tutto l'insieme dei nostri interventi, ricordandoci che il candidato sindaco Lucini la Carta dei Valori l'ha firmata, non la deve firmare di nuovo, l'ha già firmata, perché era una condizione di accesso alle primarie. Quindi lì molte cose che noi dobbiamo valorizzare ci sono. Quindi anche l'incontro sul programma è un incontro che dal nostro punto di vista, che siamo un organo, come dire, di garanzia, è quello di verificare se i programmi corrispondono in maniera chiara alla Carta dei Valori. Quindi è essenziale chiamare a un dibattito pubblico e sperare che ci sia una correttezza tra la fase di produzione del programma e la fase di pubblicizzazione del programma. Mi preoccupa molto che siano dei professionisti che poi sceglieranno tra gli obiettivi quelli più mosci e triti, ottenendo così il risultato di distogliere una parte dell'elettorato e perdere come tradizione. A noi spetterà, per quanto possibile, di fare la voce grossa su quei temi, che non so, la commissione antimafia Como, piuttosto che altri temi, se ne possono, pensano i gruppi, ne abbiamo già inventati tanti. Il rischio è che alla fine tutto quell'enorme insieme di obiettivi sensati, presi tutti insieme, non significano nulla. Esatto. Cioè è tutto il bene che è con noi, e proprio vogliamoci bene. Quindi vogliamoci bene non è politica. Si potrebbe partire dalle azioni utili. Oh, si potrebbe partire. Azioni utili, che è la declinazione del programma. Questo cioè, è se tu dici commissione antimafia, parli di legalità. Sì, se io dici... per esempio, sono molto d'accordo a mettere i piedi nel piatto, quanta parte del bilancio verrà gestita in modo partecipativo. Poi si può discutere se il 5, il 10, il 25, a Porto Alegre penso sia arrivato al massimo a 30, ma si può discutere se è per Agenda 21, una parte o per altre cose, però prima si deve mettere un po' i piedi nel piatto, se no ci accordiamo su termini vaghi. E la Carta dei Principi è una garanzia, però bisognerebbe articolarla rispetto a quel livello, e secondo me un gruppo come questo può almeno presentare. Poi è necessario che questo gruppo abbia una sua comunicazione, perché la comunicazione del candidato è un'altra cosa a cui si deve contribuire, ma è un'altra cosa. E secondo me però quello fatto finora va bene, perché lo strumento di comunicazione di un gruppo come questo non sono i volantini o i giornali o i comunicati stampa, sono le azioni, seppur relativamente piccole, hanno posto dei temi anche in modo originale, no? Poi io c'era tutte, ma insomma per quello che ho visto e ho letto mi sembra che abbiano funzionato. Il problema è quanto biologicamente uno riesce a sostenerne nel tempo, visto che ognuna di quelle cose dura mezz'ora, ma ci vogliono 40 ore per prepararla, non è che si fa in un attimo. Ci vuole più contributo, dire... ci vuole più contributo da parte di tutti voi. La grande fatica del gruppo, che in realtà è composto da poche persone per il momento, deve essere quella di costituirsi magari già da stasera con tutti voi in un comitato, cioè in un gruppo vero e proprio, perché il fare comune deve fare, e alla base di tutto, per organizzare per esempio degli eventi ci sono delle cose, dei ragionamenti, sì, ma delle cose da mettere insieme concretamente. Allora mi viene da dire che ci sono tante persone brave a fare ognuna nella sua tipicità, no? Allora deve preoccuparsi magari questa assemblea stasera di identificare i soggetti tra di noi che propongano, si propongano e dicano: benissimo, d'ora in avanti, dato che fare comune si incontra tutti i giovedì che sia la vignetta dove, dove diavolo vogliamo, lo possiamo anche cambiare, non si sa dove. Abbiamo lasciata la vignetta. No, era per, no, no, non dire così, perché sennò uno dice, no, sì, però non è che cioè, si trovano sempre le stesse persone e poi tutti, tutto il resto di coloro che, a cui piace questa idea e vuole portarla avanti poi vengono solo alle assemblee. Perché secondo me l'assemblea, se la vogliamo spostare nelle circoscrizioni o nella circoscrizione di Camerlata, deve avere il compito di aver già identificato un tema o dei temi specifici che derivano da delle considerazioni fatte nell'ambito dei gruppi che lavorano al programma. Faccio un esempio. Nel gruppo cultura a cui partecipo, non ho potuto partecipare a tutti gli incontri, si sta parlando, si stanno sviscerando un sacco di cose, di belle cose, non mi piacciono alcune posizioni, per esempio, e non spero che questo gruppo, il programma, di, l'obiettivo di questo gruppo sia quello veramente di identificare delle priorità, perché se si comincia a dire viene l'architetto che parla di razionalismo, neorealismo, tutte belle cose, continua a portare avanti, Domenico, dimmi se sbaglio, il discorso che bisogna ristrutturare questo, quello, quell'altro, quell'altro, ma se i soldi non ci sono, non si possono fare tutte queste cose, ciò che questo gruppo è, dovrebbe essere bravo a fare e dovrebbe essere bravo a, a trasmetterlo ai cittadini è quello di dire, signori, benissimo, allora avete steso tutte, in questo programma avete detto tutte queste belle cose, ma noi non vogliamo che si dia per esempio la priorità a ristrutturare il palazzo dell'ASL perché lì si vuole fare il museo del Novecento prima di aver fatto qualcos'altro di più importante rispetto al discorso culturale in città, ok? Però se non lo spieghiamo ai cittadini nelle assemblee, continuano, dato che facciamo fatica anche a far partecipare la gente, a non saperle queste cose. Quindi credo bisogna accompagnare l'assemblea quasi sempre o sempre da un evento di cui parlava anche Giampaolo e che sostiene molto. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè fare un evento che pubblicizzi l'assemblea o un comitente dell'evento l'assemblea? Un evento che sia che abbia a tema qualcosa che poi viene riportato in assemblea come ambito di discussione. Uno o più temi. Non so se mi spiego. Però per organizzare queste cose ci vogliono tante teste, tante forze. Per cui da stasera, scusate, ma definirei, raccoglierei e sottoscriverei la partecipazione, cioè proprio, non è che uno deve mettere qua, adesso deve firmare qualcosa, deve firmare un contratto, però noi possiamo dobbiamo dire, creare una comunicazione. Noi possiamo già dire che un'assemblea al mese minimo, fissa, Camerlata, e poi tutte le settimane noi abbiamo quello spazio che è prezioso, ci si sta almeno in 20. Ma che serve per organizzare? Anche di amenità, devo dire. Vai. Cazzeggiamo, mangiamo insieme, discutiamo, eccetera, però è un momento in cui riusciamo a scambiarci alcune idee. E secondo me serve anche per fare il gruppo, eccetera. Alla vignetta, in genere verso le 8:30. Il giovedì sera. Cioè la gente che deve andare a votare a maggio, è bene che vada a votare con una certa presa di coscienza di quello che sta facendo il centro-sinistra, perché non lo sa magari, nessuno, quasi nessuno ha seguito il percorso delle primarie, salvo le stesse facce. Il discorso della partecipazione, io partecipo al titolo di cittadina, non ho competenze specifiche. C'è una cosa che rispetto al tema della partecipazione. Aspetta, parliamo per tutti oppure parla uno, infatti. No, quando è chiesto. No, no, io avevo finito, no, non cioè, stavo solo, in una domanda. No, le stavo solo chiedendo, lei, siccome anche a me ha chiesto di andare a fare cose di teatro il mercoledì, però le chiedevo a Nadia, lei come partecipava, cioè se ci sono tutte queste cose che già mi pare escano e ho sentito altre persone sulle quali non sono d'accordo, certi progetti che comunque bellissimi, veramente molto interessanti, belli artisticamente tutto, però a me poi alla fine non si molto... può aprire. Prego. Vabbè, non è finito il lavoro comunque, però vabbè. No, non ho gli occhiali, non ti vedo. Quindi voglio dire, c'è qualcuno che, cioè queste persone sono arrivate lì, da chi sono state scelte? Si sono elette loro? Sono, si sono state scelte, sono state andate, sono state scelte, ognuna porta la propria esperienza personale. Ok, e quello che loro decidono, dov'è che lo possiamo fare? Questo non può che essere, non decidono, propongono. Non potrebbe che essere il propedeutico quello che esce da questo. Allora, gli altri dati documenti. Questa è una sintesi. Allora, sì, quello che ho capito io, non si è ancora capito bene poi dove sta, cioè il problema è che il lavoro del gruppo è proprio positivo, ma sta andando come donne, ma la soglia successiva che è il lavoro di assemblaggio, di decisione, il lavoro pratico, diciamo, è questo, esatto, però quello che ho capito io, oh ragazzi, uno per volta, per piacere. Alla riunione di coalizione con le forze politiche è stato detto che i coordinatori dei vari gruppi alla fine faranno una sintesi in base alle possibilità, alla fattibilità, un sacco di valutazioni delle proposte che sono uscite dai gruppi programmatici, verranno condivise tra tutti gli aderenti ai gruppi e da lì scaturirà il programma vero e proprio. Posso dire una cosa, un momento. Nella scrittura quello che ho capito io e che faremo per dire del gruppo cultura sarà l'indicazione di priorità legate per esempio a una scansione temporale, per cui quello che si farà il primo anno, per esempio, immediatamente la consulta della cultura. Secondariamente obiettivi a medio termine, il problema della ristrutturazione dell'ARL si metterà un obiettivo ventilato, ma non esistono i soldi, quindi quello lì è l'obiettivo finalissimo del programma, non sarà la priorità perché noi sappiamo che non c'è danaro, tra l'altro non c'è ancora la liberazione da parte dell'altro istituto, cioè è subordinata ad altre cose. L'idea era quella di mettere 2-3 idee non insostenibili che ci giriamo le palle intorno a cosa da soli, però comunque generare almeno un'indicazione di un'idea forte. Allora, l'idea forte è quella: riscrivere l'identità di Como sotto un profilo culturale, per esempio, proporre e di declinare Como come città di volta. Cioè, quindi questo non è un obiettivo né a medio, cioè è una priorità che secondo noi è ridare anche un progetto di identità alla città, che poi viene declinato in vari tempi, viene declinato su più fronti, perché vuol dire reti con l'università, vuol dire, no? Cioè vuol dire ritrovare anche, se vuoi, uno slogan, che può essere uno slogan e basta, oppure può essere azioni virtuose programmatiche, perché... Cioè, ma hanno parlato di come coinvolgere le persone nelle cose culturali? Quello che avverrà nell'immediato. Posso dire una cosa? Mettere le mani nella pasta. Allora, ma nel momento in cui noi stiamo facendo gruppi di programma che sono liberi e frequentabili. I gruppi sono frequentabili da chiunque. C'è stata gente che è venuta una volta, l'ultima volta, la prima volta, che non è più venuta. Cioè, i gruppi di programma sono sempre aperti. Uno può arrivare anche all'ultimo giorno e dire una cosa. Quello che so per certo è che ci saranno due livelli poi di comunicazione di questa vicenda. Un gruppo, un momento in cui 4-5 gruppi si racconteranno tra loro quello che è avvenuto. è un momento in cui tutti racconteranno di fronte alla collettività. Non si sa ancora come questo secondo passaggio, che è quello che ci interessa più di tutto. E sarà indetta un'assemblea che sarà liberamente frequentabile, chi vuole andare a sentire. Stiamo dicendo la quale, sì, diverse volte a Vita Musi, la capogruppo Silvia, dicendo appunto che il martedì sera, il mercoledì sera, anche con il posto del teatro, è il mio lavoro, quindi devo andare perché è il mio lavoro. Manda delle solicitazioni. Ma non ho mai avuto risposta. Magari non le arrivano nemmeno. Ma secondo me non è strano. No, è stata la gente che manda un sacco di troppo comiche le mail. Tutti non so se perché a me è questa parte è arrivata. Questa storia della vita. Dopo stasera vediamo. Abbiamo già parlato. Per esempio l'esempio che ha fatto lui è un tema che volevo portare anch'io, ma ci sono registro che è già stato passato. Questo l'ha scritto lui, l'ha scritto lui, no, questo però però si vede che ha di luce, no, hanno parliamo, parliamo. No, c'era lui che stava tenendo di parlare da tempo, vorrei che ci fosse. Scusate, andiamo oltre. Torniamo a parlare a due, se non si capisce niente. È una risposta prima diretta a Emiliano. Ognuno di noi che partecipa ai gruppi di lavoro partecipa, come si dice, perché si è in qualche maniera sentito coinvolta e ha portato il suo contributo. Io ad esempio partecipo al gruppo cultura e al gruppo giovani. Molte cose sono sulla posizione, anzi presumo che tante delle cose che vengono dette si ripercuotono nei vari gruppi, si sentano da una parte o dall'altra, eccetera. Le proposte sono tantissime, sono variegate, eccetera. Quello che, come diceva prima Ida Paola, in questa fase è un discorso più che altro di identificare dei temi di comunicazione, perché poi il vero problema è quello, cioè non dell'oggettivo dato che verrà realizzato o di come verrà realizzato, perché poi qui diventerà competenza specifica degli assessorati, diventeranno meccanismi di attivazione, diventeranno regolamenti, diventeranno, cioè prima bisogna arrivare. Ma per arrivarci il contenitore, ora, in questo momento il discorso è, come ha detto, identifichiamo degli obiettivi che possono essere a breve, cioè cose che si possono fare domani mattina, che secondo me sono fondamentali, perché come abbiamo, ho già avuto modo di dire anche te di giovedì scorso, eccetera. Una delle cose fondamentali che deve far vedere che le cose stanno cambiando è che una volta insediato un nuovo sindaco faccia delle cose in maniera molto rapida. Molto rapida vuol dire quattro azioni che il giorno dopo mettono in condizione i cittadini di vedere che sono veramente cambiate le cose. Interventi diretti, che ne so, sul servizio alla scuola, interventi diretti sulla limitazione di alcuni sprechi, la creazione della consulta per fare il censimento di quello che è, dare, cercare di vedere effettivamente quelle che sono le risorse gestibili, quello che è il patrimonio, come utilizzarlo, mettere in atto quelle buone politiche di non spreco, perché si possono trovare tra le pieghe di bilancio quello esistente, si possono trovare diversi milioni di euro. Questo è un modo. Poi ci sono obiettivi a medio termine che possono essere conclusi nell'arco di un mandato. Però iniziano adesso, finiranno a. Questo vorrà dire un sacco di cose, e lì c'è da lavorare. Poi c'è il grosso problema degli obiettivi a lungo termine, che sono gli identificativi di che immagine ci vogliamo dare, qual è il brand che ci vogliamo costruire. Perché alla fine l'identità della città, questa città distrutta in questo ventennio, perché questa città distrutta in questo ventennio, forse un'identità che sia diversa dalla Lambicco della birra fuori dall'uscita dall'autostrada se la vale dare. Ora, se un tema può essere la città di Volta e la città dell'acqua, vabbè, questo è un sentire abbastanza diffuso. Se possono essere, e qui prendo il lavoro che è stato fatto anche dal gruppo di Mario e della Marzorati, cioè dentro nel sondaggio che era stato fatto, le 1360 persone che hanno risposto al sondaggio, che sono 1360 persone a caso prese per strada, che hanno identificato degli obiettivi, cioè servizi alla persona, obiettivo primario, servizi alla persona e energie rinnovabili. Questi sono gli obiettivi primari che chiedono i 1360 che hanno risposto al sondaggio. Anche su questo io ci farei una riflessione. Per cui, ora, queste cose non è che sono sganciate dal sentire comune. Quel sondaggino lì, fatto da Mario e da Roberta, sta un po' rimpallando in giro in tutte le liste civiche, in tutti i gruppi, Cioè, per cui, anche qui i programmi saranno sovrapposti, saranno uguali, saranno identici. Non è che un elettore del centro-destra che manda i figli a scuola non ha le stesse esigenze o necessità dell'elettore del centro-sinistra o della sinistra che manda i figli a scuola. Le corde saranno le stesse. Si tratterà di identificare quelli che sono i modi per comunicare. E qui torniamo al discorso di... E qui una piccola... Faccio una nota, una piccola chiave di lettura, no? Del primario... Qui ci siamo sentiti da tempo, no? Questa cosa ve l'ho detta da quando ci siamo conosciuti. Andate a riprendere i vostri elettori. Ti ricordi? A riprendere, scusami? I vostri elettori. Andate a riprendere. Il risultato delle primarie. Luca l'ha detto. Andiamo a prendere i numeri. A Taverna sono andati a votare esattamente gli stessi elettori della volta prima. Anzi, forse uno meno. Anche a Prestino, un po' di più. Per cui il risultato di primarie vere, no? Se lo dobbiamo leggere come risultato, è stato che il picco l'ha dato il candidato lavorando in proprio sul suo elettorato. Per cui bisogna andare a fare un lavoro di recupero. Questo lavoro di recupero non si fa né con Facebook, non si fa né con le mail, ma si fa andandosi nei quartieri, parlando di nuovo con le persone, spiegandogli le cose e via. Il lavoro che uscirà dai gruppi di lavoro alla fine sarà una sintesi, che non so, che alla fine nelle pieghe dovrà contenere un po' tutto quello che ci siamo detti. Sì, avrà dei temi principali su cui spingere, ma che alla fine diventerà un messaggio di comunicazione, per cui non dovremo neanche tanto spaventarci di quello che ci sarà lì dentro. Più che altro sarà nel programma effettivo, quello che poi incide con i piedi nel piatto, che sarà la cosa non tanto su quello che verrà, perché quello è un problema di comunicazione e lì ognuno dovrà andare a parlare sui gruppi, per cui bisognerà andare a portare via elettori al centro-destra e bisognerà recuperare il voto gli elettori di centro-sinistra, perché in questa città quelli che non vanno a votare sono gli elettori, i giovani e gli elettori di sinistra. Questa è la realtà, perché i voti sono quelli. Il centrodestra non ha aumentato i suoi voti negli ultimi vent'anni. Il centrodestra ha preso sempre esattamente gli stessi voti, sempre esattamente gli stessi voti. È aumentata la quota di astensione, che ha fatto aumentare la quota di successo, portandola al 60%. Ma i voti in numero assoluto non sono cambiati, sono semplicemente spariti quasi 10.000 voti del centro-sinistra o di quello che nel punto di massimo scoperto, chiamiamolo così, era il voto del PD. Per cui in qualche maniera bisogna andare a lavorare su diversi fronti. Recuperare quel 10-15% di chi non è. Eh sì, bisogna andare a riprendersi tutte quelle persone in forma diversa e comunicando con sensibilità diverse, perché attenzione, poi cerchiamo di capirci su una cosa, cerchiamo di capirci su una cosa. I temi e i modi di parlare che tu hai per portare un elettore a votare il candidato sindaco A, che sono quelli delle tue corde, possono essere quelli che stridono nella maniera più assoluta nelle orecchie di un elettore di centrodestra, anche se logicamente magari dovrebbero essere le cose che lo portano. Io faccio sempre l'esempio di mio suocero, il poveraccio, morirà contento. Lui è un grande lettore della Lega, per lui Bossi del MEI. Io ho tentato in 20 anni, ho tentato di spiegargli che lui sosteneva Berlusconi. Lui ha sempre detto che Berlusconi era un ladro, che era un bastardo di prima fatta. E io ho detto, allora perché lo sostieni? E io mica lo sostengo, io voto Bossi. Allora, se il livello di comunicazione è questo, attenzione. Ma la differenza sostanziale che... forse come obiettivo, uno degli obiettivi principali di fare comune, è quella di far passare il messaggio che tu elettore non vai a votare Lucidi perché è di centro-sinistra, solo perché è di centro-sinistra, vai a votare Lucidi perché sta gestendo un programma, ha delle idee e ha una squadra che si vuole preoccupare del bene comune. Come lo faccia? Lo fa in modo diverso, probabilmente, ci auguriamo, però noi già da ora lo non so se questo messaggio stiamo però, controllando. Non so se questo messaggio però, come si dice, riporta al voto un certo elettorato. Ma devo dire il vero, però che non è nemmeno esattamente la nostra funzione principale, cioè, quella di andare a raccogliere voti. Ma far passare il messaggio, io lo vedo come risultato finale. È chiarissimo, l'analisi è chiarissima e anche interessante, no, di come si sono spostati i voti così. Però a dire la verità, io mi metto tra i cittadini che potrebbero andare a votare se mi girano le balle. E quindi, in effetti, secondo me la nostra funzione è quella, la nostra funzione, la necessità che tutti quanti dovremmo sentire, è quella, data l'inadempienza purtroppo della politica in senso largo, no, anche qui in Comasca, è quella di responsabilizzarci tutti un po' di più perché le cose della prossima amministrazione funzionino meglio. E quindi non è in sé per sé quella di andare a convincere qualcuno per andare a votare qualcun altro, è proprio quello di andare a ritoccare il sistema, che non possiamo rimandarlo più tardi, a ritoccare il sistema della delega, no, in una maniera che in qualche maniera, modo, incorpori più le necessità di tutti e faccia sentire tutti quanti un pochino più vicino a sinistra. Forse poi il risultato finale è anche un voto. Però ti devo dire che tutto quanto il processo non deve mirare al voto, perché altrimenti secondo me è già zoppo di suo, insomma, punterebbe a una delega che non è esattamente quello che vogliamo fare. Vogliamo tentare di riprenderci un pezzetto di capacità decisiva. Deve essere lo strumento. No, questo io sono d'accordo. No, lo so che sei d'accordo. Io sono d'accordo. D'accordo. Quindi dico non mi viene da impostare un'analisi così. Il processo deve essere in itinere, nel senso che io riporto al voto e cerco il voto, cercando di motivare comunque chi viene al voto a essere più partecipativo, a essere non una delega in bianco, ma di venire su e a darmi il cambio così. Esatto. Comunale. Bisogna evitare gli infortuni. Bisogna evitare gli infortuni, eccetera. Comunque, è possibile fare una... Allora, dicevo prima che appunto fare comune poi... Ho sentito che anche altri insomma hanno ripreso, comunque condividono questa idea che secondo me comunque rimane importante, insomma, essere un, io uso il termine un soggetto politico, che vuol dire che non significa essere un partito, insomma un soggetto politico è una cosa un po' più ampia, avere l'ambizione di esserlo, mettiamola così, poi insomma tra le ambizioni e le possibilità chiaramente. Però adesso io volevo introdurre un altro aspetto, sentendo anche adesso noi siamo cittadini, siamo qui riuniti, insomma, qui, insomma, non siamo un partito, ognuno è qui perché è importato dalle personali sensibilità, insomma, perché vivono in questa città comunque. Ora io devo dire sinceramente che quante quante settimane mancano, mancano 2-3 mesi, insomma. Si voterà, quindi non tra tantissimo, no? Sei maggio, quindi insomma mancano 3 mesi, insomma, più o meno. Ora, cioè io, cioè il tema della comunicazione, ora, in politica, diciamo così, la comunicazione non è un fatto tecnico, ma è un fatto politico. Diciamo questa premessa, quando io sento parlare, no, anche adesso gli esperti, vabbè, quelli sono dei tecnici che devono mettere a punto dei mezzi che servono per. Però in politica la comunicazione è un fatto politico, come l'organizzazione è un fatto politico. Ora, cosa significa che la comunicazione è un fatto politico? Che il punto fondamentale è che questo candidato sindaco, questa coalizione, rendano percepibile una idea di città che sia, diciamo, diversa e, come dire, apprezzabile positivamente e facilmente, dico anche, perché chi vuole andare nei quartieri popolari non può andare a fare discorsi troppo sofisticati sul recupero del razionalismo, sul palazzo, diciamo così, dell'Inps, sul, come dire, la consulta della cultura, che è una cosa apprezzabilissima, insomma, cioè qualcosa che sia anche. Poi tutte queste cose in un programma ci devono essere, tutte queste cose, però il programma poi deve essere immediatamente percepibile dall'elettore, anche semplice. Allora io, perché ho fatto la premessa, siamo cittadini, ora io francamente penso di essere un cittadino abbastanza informato, che segue, legge, eccetera. Io, appena a 3 mesi di distanza dalle elezioni, io faccio fatica a capire qual è l'idea di città di Lucini, cioè sinceramente, pur avendo un pregiudizio positivo a favore di Lucini, cioè nel senso che non potrò votarlo perché non sono un elettore del Comune di Conti, e devo dire che di questo sono anche contento. Sono anche contento perché francamente, per quella che è la mia storia, insomma, ecco, trovare una persona stimabile, che io conosco anche personalmente, insomma, dire, secondo me se diventasse sindaco di Como sarebbe una buona cosa, dire, però queste sono le idiosincrasie personali, insomma. Allora, a parte questo, però io dico, faccio fatica oggi a dire, beh, questa è, no, allora io dico, i cittadini di Como che vivono nei quartieri a Reggio, a Sannino, la Convallo ovviamente, eccetera, boh, cioè, vabbè, insomma, probabilmente avranno elementi più di me, ma a parte quell'elettorato convinto che comunque sarà comunque il centro-sinistra, c'è, cioè, lo zoccolo duro, come giustamente ricordava prima qualcun altro, il problema è andare a recuperare quei voti di chi non andrà a votare, di chi, come dire, vive questa fase con assoluto distacco, gente che, come dire, ha votato il centro-sinistra o la sinistra, o gente che è assolutamente scontenta del centro-destra, della Lega, perché l'elettore poi, voglio dire, insomma, ci sarà anche un giudizio di chi amministra adesso questa città, si spera, no? Quindi qualcuno che magari non voterà più quelli che la governano attualmente, che potrebbe. Ora, è chiaro che questo è quello che chi vuole governare questa città, Lucini, se vuole diventare sindaco, dovrà prendere i voti di questi, insomma, dovrà, non di chi è convinto che comunque andrà a votarlo comunque, anche se non sa niente del programma, voglio dire, non, e qualunque cosa ci metti nel programma lo voterà comunque, insomma, e che è lo zoccolo duro dell'Ulivo, che ha votato la Margherita, ha votato il DS, altri pezzi sparsi, insomma, che fatta la somma arriverà non so che percentuale, insomma, quella percentuale comunque avrebbe preso comunque. Ora, se non viene fuori questa cosa qui, e anche in tempi rapidi, perché adesso io voglio anche aggiungere un'ulteriore cosa, primarie vere per Como è partita perché c'era la campagna per individuare il candidato sindaco con largo anticipo, perché questo doveva servire per mobilitare, no? Ecco, adesso il candidato sindaco c'è, adesso si tratta di mobilitare gli elettori, perché adesso non si vota più il candidato sindaco, ma il sindaco. Quindi io vedo questa come urgenza, anche rispetto al tema della comunicazione, che questa idea di città emerga. E allora attenzione, un'idea di città che deve essere chiara, realistica anche, perché giustamente non si possono promettere cose che poi sono assolutamente improbabili, voglio dire. Quindi percepibile, chiara, realistica, e che comunque abbia un segno politico diverso. Lo ribadisco questa cosa qui. Cioè la città di Como negli ultimi 20 anni, insomma, dagli anni 90 arrivando fino ai giorni nostri, in fin dei conti si è ridotta come si è ridotta, perché non c'è stata, diciamo così, una politica, una programmazione, un'idea di città che non fosse in qualche modo la semplice risultante di interessi economici in conflitto fra di loro, per cui poi chi emergeva dettava le linee del governo della città sostanzialmente, o dello sgoverno della città, per cui le aree strategiche, la Ticosa, San Martino, l'ospedale, insomma. Ora, questa è una delle questioni fondamentali, una, e l'altra ovviamente c'è tutta la dimensione del sociale, la dimensione appunto che riguarda appunto i servizi, che riguarda la scuola, che riguarda il cittadino, che riguarda la, diciamo, la concretezza della vita materiale, che riguarda anche quei marciapiedi, quelle strade, il decoro di questa città che è veramente una cosa incredibile, insomma, ecco. Ora, su queste cose qui, secondo me, bisogna spronare perché in tempi più rapidi possibili venga fuori questo profilo. Questo. E questo serve, allora, attenzione, fare comune deve spingere in questo senso a partire da quella che è la propria idea politica, ma questo serve comunque alla coalizione complessivamente, al di là di fare comune, che se questa cosa non viene fuori in tempi rapidi, insomma, sarà difficile questa partita, nonostante appunto la Lega vada per conto proprio, nonostante il PDL, e queste sono sicuramente condizioni favorevoli obiettivamente, però insomma non bisogna fidarsi troppo di queste condizioni favorevoli, perché insomma il qualunquismo, la sfiducia, insomma noi siamo nel pieno di una crisi della politica e del rapporto tra i cittadini e la politica, dalla quale non so quando ne verremo fuori. Quando ne verremo fuori? Perché insomma il quadro generale, io lo ripeto, poi però, inciderà moltissimo. La manovra economica di dicembre, le nuove manovre economiche che ci saranno, la nuova manovra economica che ci sarà quest'anno, i provvedimenti sul lavoro, le questioni che riguardano l'occupazione, insomma tutte queste cose qui, le tasse, le condizioni materiali di vita delle persone, l'ICI, i servizi, i tagli, cioè, ma tutte queste cose qui poi incideranno, perché poi il cittadino che non è politicizzato preventivamente, che non è schierato già a priori con il centro-sinistra, cioè quello che vota alla fine sono molti quei cittadini che votano guardando il portafoglio, guardando i loro interessi materiali, queste persone qui insomma non è che le mobiliti facilmente, queste persone qui con discorsi troppo astratti, troppo intellettualistici, troppo, cioè devi dare la sensazione che insomma tu proponi qualche cosa che in qualche modo si faccia carico anche di questi problemi qua, per cui insomma deve venire fuori questa cosa qui, allo stato attuale non mi pare che ci sia, insomma, ecco, cioè, non, io non la percepisco, ecco, poi giustamente mi si fa, ma tu non partecipi ai gruppi di lavoro, ma non deve, non, cioè, uno per percepire questa cosa non deve partecipare ai gruppi di lavoro, io come cittadino devo avere la percezione di questa cosa, che non devo essere un esperto, un architetto per capire qual è la politica di Lucini per la città di Como, perché stiamo presi. No, no, ma noi dobbiamo battere fortissimamente su questo chiodo, che è l'unica vera nostra attuale, perché possiamo avere obiettivi a lunga scadenza, ma attualmente il nostro obiettivo è questo, far uscire, far emergere quello che è il lavoro che si sta facendo da altre parti, controllarlo dal punto di vista critico, nel senso che come dibattito in quell'occasione noi possiamo anche porci e porre le questioni che eventualmente sono mancanti o carenti da quella parte lì. Il nostro vero problema comunque è... mi sembra che sia di tutti la convinzione che questa cosa sia una necessità. Bisogna riuscire non solo a convincere a venire qui a dibattere o alla circoscrizione tra dove ci troveremo, ma bisogna anche fare uno sforzo noi tutti per far uscire da questo luogo questa necessità, no? E portare, perché altrimenti se non facciamo questo sforzo, stasera è mezza riuscita e mezza no, ma ce ne vuole di più, ragazzi, cioè ci vuole veramente anche uno sforzo singolare di ciascuno, come veniva detto prima, di passaparola, perché esiste anche una pregiudiziale durissima, se vogliamo parlare in termini elettorali, rispetto ai partiti e al PD in particolare. E questa cosa qui, noi è vero che siamo a rappresentarne un aspetto critico della sinistra e forse a rappresentare che un pezzo di sinistra che non è rappresentato, ma da quell'altra parte non è la nostra connotazione che può aiutarci. Quello che ci può aiutare è il fatto di non essere troppo connotati, a dire il vero, da un punto di vista puramente elettoralistico. E quindi da questo punto di vista noi ci dobbiamo sentire liberissimi di poter coinvolgere amici e cittadini senza portarli sotto un cappello necessariamente troppo stretto. Ecco. Questo... Sì, mi piaceva che hai detto prima dovremmo essere più aggressivi, aggressivi in senso buono, ma aggressivi. Cioè, se tu porti in mezzo alla gente in un'assemblea anche poche cose, no? Ma parli di cose concrete. Cioè, da lì già scaturisce un dibattito, da lì già poi questo gruppo avrà un suo delegato che non rappresenta nessun cappello politico, non ha nessuna lista, ma che i cittadini sapranno andrà a tirare la giacchetta di quelli che poi devono fare, o andrà a dire attenzione, vi stiamo controllando nel senso buono, però... Cioè, però di questo dobbiamo passare anche a decidere il delegato di questa cosa qui. Tu volevi dire una cosa? Sì, volevo dire una cosa. A onore del Confucci aveva lui stesso chiesto ai gruppi di lavoro, e anche con un tempo di lavoro breve, tanto che aveva una scadenza adesso, perché diceva: vorrei raccogliere delle idee che vengano discusse collettivamente, ma che siano anche delle idee proponibili realisticamente, perché non voglio raccogliere un consenso su idee che poi siano realizzabili, altrimenti faccio quello che hanno fatto fino adesso le altre giunte elette, e quindi quello che esce dai gruppi deve essere anche qualcosa di realizzabile. Quindi probabilmente il difetto che c'è anche adesso di non sapere che probabilmente poi arriverà pian piano quello che verrà elaborato dai gruppi. Il dubbio che resta è che Lucini stesso ha detto quello che uscirà da questi gruppi però poi verrà portato a confronto con le altre entità politiche, e poi lì bisognerà vedere cosa uscirà fuori. Quando Lucini è passato quello che uscirà dai vari gruppi, io poi devo andarlo a discutere con anche gli altri partiti che hanno preso parte alla coalizione. Io da questo punto vedo un grosso limite nell'atteggiamento, perché quando mi vengono a dire questa cosa non è fattibile, quindi non discutiamone, spesso dietro questa cosa si nasconde non abbiamo la volontà di affrontare questo problema. Cioè, la sensazione che ho io nella discussione generale su Facebook, ma anche nei gruppi eccetera, è che a volte i problemi si chiudono dicendo non è fattibile, ma nella realtà non è affrontabile, sarebbe più corretto dire, perché ci sono delle sensibilità che non vogliono affrontare alcune cose. Io quindi, pensavo più in termini economici. No, sì, ho capito come la intendi tu. Il problema è che spesso la chiusura non è in termini economici, cioè non è fattibile, ma non è opportuno. Mi riferisco al registro del copia di fatto, ma potrei farti esempi anche in tantissime altre cose nelle discussioni che ci sono continuamente, sia in Facebook che in mail, che quando ti trovi in assemblea eccetera. Cioè non è fattibile, ma non è che non è fattibile la potere, ma non è fattibile perché non si deve sollecitare alcune sensibilità che rimangono, e secondo me questa cosa noi la dobbiamo mettere in discussione invece. Cioè non può essere, il non è fattibile non può essere la porta dietro la quale ti nascondi per non prendere posizioni. C'è anche questo rischio. Fontana. Posso? Ciao, sì, Giorgio Fontana, non mi conoscete tutti, non conosco alcuno di voi. Vi vedo più con occhio esterno, visto che vi conosco da poco. Secondo me in questo passaggio c'è, per quel poco che vi conosco di fare comune, c'è tutta la vostra mission, come dicono gli organizzativi aziendali. Allora, perché sono in sintonia con voi? Perché detto proprio a mezzanotte meno un quarto, sappiamo tutti che l'economia fa girare il mondo, sappiamo tutti che la politica non è stata in grado di farla, non è stata in grado di governare l'economia, ma sappiamo altrettanto che la cittadinanza, cioè noi per primi che ci tiriamo fuori dalle nostre divane alle 9 di sera e veniamo qua, noi per primi abbiamo il sacrosanto obbligo, e non dico dovere, ma l'obbligo di stimolare la politica e di tenerla sulla graticola. oggi il lucine della situazione, su cui io più di tanto non mi sbarrellerei, perché oggi c'è lui, domani c'è un altro, tra l'altro diamo per scontato che il lucine della situazione vinca, ma vorrei anche sentire che cosa cacchio uno fa nel caso in cui la remota possibilità il lucine non dovesse vincere, e queste qua sono altre cose da grattare. Allora, nel momento in cui oggi ci sono le elezioni, ma poi in un ciclo elettorale di 5 anni, a me interessa, e l'ho detto anche nel nostro gruppetto di ambiente e territorio, a me interessa soprattutto cosa si fa gli altri 4 anni e mezzo, perché io ne ho piene le scatole di svegliarmi a 6 mesi delle elezioni e c'è un sistema di gasamento incredibile in cui tutti ci si muove, e poi la cittadinanza si riaddormenta, dà la delega in bianco, lascia la delega in bianco di nuovo alla politica e ci rivediamo tra 4 anni e mezzo per piangerci addosso di nuovo. Allora, secondo me, uno, bisogna riuscire a tenere in piedi un meccanismo di partecipazione attiva che evidentemente sotto elezioni lavora il doppio, il triplo e il quadruplo, ma che poi continui questa azione, perché se non continuiamo questa azione buttiamo nel cestino tutto quello che stiamo facendo noi, voi, altri gruppi come questo, e quello che stiamo facendo in questi 6 mesi. I gruppetti del, chiamiamoli gruppetti in maniera simpatica, di elaborazione del programma, perché in maniera simpatica? Perché sono in sedicesimo un'agenda 21 della situazione, dove nell'agenda 21 della situazione, che ripeto, l'avete già detto prima, lo diceva Michele Marciano, che non sono il fine, ma sono uno strumento di partecipazione che poi regolarmente incorpora abbastanza poche persone, ma sicuramente non tante quante ne dovrebbero. Allora, perché non ci sono, non c'è la ressa e la coda fuori dai nostri localini, ma dentro ci sono più o meno sempre le stesse persone? Perché è ovvio, e chi l'ha detto, che bisogna, ovvio nel senso che è stato già detto, che bisogna riuscire a intercettare quelli che dormono sul divano davanti alla televisione. Ora, questi qua non è che sono proprio tutti rincoglioniti. Qualcuno di buono bisognerebbe anche resuscitarlo in qualche cacchio di maniera. Allora, mi aggancio velocissimamente a quello che è stato detto prima. Come si fa a tirare fuori dei divani? Sicuramente non solo con questo tipo di assemblee. Bisogna per forza di cose che questo tipo di consessi tirino fuori qualche accidente da idea, la qualunque sia, piuttosto, non piuttosto, basta che ci piaccia, basta che ne siamo convinti, basta che riusciamo ad avere la passione e la capacità di comunicarla, andare dove diavolo vogliamo, nei quartieri, in piazza, sotto le tende, eccetera eccetera, e fare degli eventi, chiamiamoli come vogliamo, pubblici, dove uno dice: guarda, uno, esistiamo; due, abbiamo delle idee; tre, se non scendi dal divano vuol dire che sei proprio lobotomizzato. In questa maniera è l'unica maniera in cui, producendo un minimo di idee, si deve, e sottolineo deve, se no mi suicido domani mattina, si deve riuscire ad allargare la base di partecipazione. Se non allargo la base della partecipazione, ci ritroviamo qui tra 4 anni e mezzo nella metà delle persone. Allora, dopodiché credo che gli argomenti paradossalmente siano perfino secondari, perché è abbastanza ovvio ed inevitabile che nei gruppi di lavori tipo Lucini una serie di argomenti vengono scartati o lasciati da parte, eccetera, perché sono troppo politically non correct, ovviamente, e rimangono politically non correct finché non si mette sul piatto in maniera pesante davanti all'opinione pubblica il fatto che questa roba invece ha un peso, ha un'importanza, raccatta l'interesse della gente, non di 30 persone, ma di 3.000. Allora, se si fa un convegno sulla legalità, come ogni tanto ne vedo in giro, e il convegno viene riempito, un candidato qualunque, che si chiama Lucini, che si chiama Fantozzi, non può far finta che non esista quella roba lì, ma non perché glielo chiedano 39 di persone, ma perché bisogna, volenti o nolenti, riuscire a catalizzare un evento in cui, se c'è la sala vuota, vado anch'io a vedere la televisione, ma se riesco a riempire la sala, quello è lo scopo della nostra associazione e soprattutto la maniera di far pesare le cose sul piatto. Ora, questo processo che... io mi sono laureato con un P5 e fosfori verdi grandi così. Nei prossimi 5 anni di cosa ne succederanno di ogni, e oggi non credo che nessuno sia in grado di capire che cosa succederà nei prossimi 5 anni, un po' come le paratie, magari gli andava bene ed eravamo qua a fare un altro film. Nei prossimi 5 anni monitorare, gestire, intercettare, tenere a bandia il sindaco, qualunque se sia, quello buono, quello cattivo, comunque è un lavoro che va gestito e bisogna riuscire ad organizzare qualcosa ogni 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi su quello che ci piace, per dire io ci sono, sperando che ovviamente dietro ce ne siano anche qualche altro migliaio. Se non riusciamo ad avere questa visione di 4 o 5 anni, camminiamo morti in piedi, cioè qualunque altro discorso alla fine non sta in piedi. Del programma di Lucidi più di tanto a me può anche non preoccuparmi, perché sono abbastanza convinto di quello che diceva Marco, oggi, adesso, qui, così non si vedono le influenze più o meno pesanti della struttura organica che sta dietro, ma prima o poi ovviamente salteranno fuori, non si può pensare che non esistano per sempre. Adesso ti lasciano lavorare, tra virgolette, in senso buono, positivo e ottimistico, perché qualcosa di buono verrà più fuori. E dopodiché qualche sforbiciatina qui e là salterà fuori, ti scappa via, qualche tagliare l'angolo e le cose che pungono. Però il programma va avanti per i fatti suoi e, per carità, è fondamentale esserci, è fondamentale contribuire, è fondamentale mettere di nuovo sul tavolo le cose giuste ed importanti. Ma poi ognuno deve andare per la sua strada. Ti tagliano fuori un argomento, io lo rimetto fuori dall'altra parte e voglio vedere che mi dice qualcosa. Questo è perfetto. Forse è proprio anche uno. Chiudiamo. Chiudiamo. Allora, basta. Questa sera abbiamo già il delegato. Dobbiamo non sono io, ma così almeno ci togliamo questo dubbio, per la semplice problema che non sono utile sinceramente lì, solo perché sono già abbastanza coinvolto nei gruppi di lavoro, nei contatti personali, eccetera. Quindi non sono utile, ci vuole un altro occhio, perché io già ve lo faccio questa parte da occhio, no? Chi lo può fare? Chi avrebbe un qualche voglia? Tu non puoi. Vabbè, noi all'interno del gruppo. Il gruppo che si è ritrovato in queste ultime settimane, abbiamo definito due coordinatrici. Secondo me una delle due può fare tranquillamente il delegato. Questa è un'ottima proposta. Omar Torossana, giocatela. Io direi Rossana. Se a tutti ovviamente questa cosa va bene. Ma non avete detto un paio di anche se mi metto in faccia Marta anni per togliere la canzone dialogare con un coso che Monteleone fa. Io sono più per Rossana perché è una cosa no, sono più per te perché lei ha già fatto l'esperienza, cioè lo possiamo anche lei oggi Marta. Dubbiamente lei è già ben inserita. C'è qualcuno che lo vuole fare? Non c'è se c'è voglia di farlo c'è io. No, no, se vuoi dare continuità al suo esperienza. Va bene, leggiamo Marta. Ok? Chi è d'accordo con la proposta di Marta? Proposta di Marta come coordinatrice, come membro del coordinamento per noi. Allora la vita, mettere Cicciolino in Parlamento. Allora, l'appuntamento che